fare. L'attualità, anche d'estate, di Alessio Maurizi. Ma questi, secondo te questi vengono qui per venire in albergo, cioè partono dal Niger, cioè, dal, allora, per indubbiamente in albergo in Italia. E questa intanto, è la infatti, ti ricordo che con i tuoi soldi e con i miei e con quelli di tutti i telespettatori vengono date persino le schede telefoniche, quindi voglio vedere. Scandalo. Se quelle persone, che lo dico, stessero in un albergo a 5 stelle in vacanza, non scapperebbero tutte verso il nord Europa, perché quelli cercano di andare a lavorare come cercavano di andare a lavorare milioni, milioni e milioni di italiani nel secolo scorso. Quindi, però facevano chiedendo permesso, Eccoci qua, buonasera ad Alessio Maurizi, cari ascoltatori. E da Carlo Gabardini, buonasera a tutti. Si può fare 18, 20 e 30, 800, 24, 00, 24, ben ritrovati in contatti per interagire con noi. La pagina Facebook si può fare trattino Radio 24, l'account Twitter si può fare 24 e poi ci sono i nostri account Ale Maurizi. E il mio è chiocciola Carlo Gabardini. Ah, torna la questione se stiamo accogliendo troppo bene gli immigrati, se li stiamo dando, regalando camere d'albergo, hotel a 5 stelle. Sentivate il dibattito, il direttore di Radio Padania Morelli con Stefano Feltri, direttore del Fatto Quotidiano, poi Realacci del PD. Davvero li accogliamo così troppo bene, troppo a braccia aperte? Dovremmo fare come altrove, come per esempio è successo anche in Grecia recentemente, dove ci sono stati scontri e qualcuno ha anche sparato. 800 24 00 24. O forse semplicemente questa questione degli hotel, del fatto che c'è questa, segnala che cosa? Che c'è un'accoglienza forse un po' improvvisata da parte del governo. Qualcuno ha detto giustamente in questi giorni, insomma, ci si poteva fare un po' di previsione del fenomeno, quindi evitare che i prefetti all'ultimo secondo spediscano torpedoni di immigrati negli alberghi. Anche perché va detto, questa questione degli alberghi, al di là che è molto strumentale, perché è molto facile dire vanno negli alberghi 5 stelle, perché se uno ha un albergo 5 stelle non è che lo apre agli immigrati, non ovviamente credo, credo. E poi, come dici tu, è sicuramente sintomo di un'accoglienza un po' raffazzonata, nel senso che dovrebbero esserci i famosi centri d'accoglienza, un sacco di altre cose, nel momento in cui non ci sono non si sanno dove mettere, uno dice proviamo qui, proviamo là. Tra poco, tra l'altro, vedremo anche, parleremo di una realtà che è un po' diversa da un hotel a 5 stelle. Entreremo nel ghetto di Rignano Garganico, dove abitano migliaia di immigrati e non solo, che lavorano nei campi. Ancora però qualche voce, ancora Morelli Feltri, ce l'abbiamo su questo? Se noi raccontiamo e facciamo, permettiamo di far raccontare in giro per il mondo che qui si può venire ospitati, c'è il pocket money, ci sono i materassi comodi. Ieri c'è stato un servizio televisivo nel quale delle persone buttavano fuori dall'albergo i materassi perché dicevano che erano scomode e gli asciugamani non asciugavano bene. L'ho visto io con i miei occhi. L'ho visto io con i miei occhi, Feltri, se vuoi dopo ti do il link della trasmissione e te lo vedi pure tu. Feltri, allora, mi dispiace, non so dove abiti sinceramente, io o se hai la televisione in casa. Io abito in un quartiere di Roma che si chiama Pigneto, dove ci sono più immigrati che dalle vostre parti. Ma non lo so. Oh, poi c'è ancora la questione dello scandalo degli stipendi dei dirigenti, di alcuni dirigenti della CISL. Savino Pezzotta, ex segretario della CISL, ha detto tutto è cominciato con la gestione Bonanni. Vabbè, anche un po' uno scaricabarile tra ex segretari. Sentiamo le voci dello scandalo. Scandola, il dirigente della CISL di Verona che ha rivelato questi mega stipendi e poi il segretario della CISL Furlan. A me risulta che la segretaria generale oggi da 5 o 6 anni ha un reddito utile per la pensione superiore ai 170.000 euro annui. C'è una cosa che mi amareggia moltissimo di tutta questa vicenda, è l'immagine che si dà. si sono presi due o tre casi, peraltro stranamente qualcuno si è accorto oggi di questi casi e se ne è fatto un discorso come se fosse generalizzato. Cari ascoltatori, 800 24 00 24, cosa ne pensate? Mele marce, poche mele marce all'interno del sindacato, all'interno della CISL, oppure uno scandalo che offusca definitivamente l'immagine del sindacato e che dà ragione, come sostiene qualcuno, a Renzi, che parla di una riforma che ci vuole, i sindacati che non rappresentano più nessuno e che nella migliore delle ipotesi rappresentano solo situazioni di privilegio come quelle descritte dallo scandalo di Scandola, perché il gioco di parole è questo, ma si chiama così il dirigente della CISL di Verona. Torniamo ancora sulla questione degli immigrati, però, per sollevare il caso di Rignano Garganico in Puglia. Nelle ultime settimane tre persone, anche se deve essere ancora tutto un po' accertato, sono morte in tre diverse situazioni tre braccianti che lavoravano nei campi. Rignano Garganico è un po' il simbolo del ghetto, della condizione in cui lavorano queste persone invisibili, ma che poi è anche grazie a loro se alla fine nelle nostre tavole arrivano frutta e verdura ogni giorno. Emiliano. Voglio anche dire che ovviamente non è quello lo specchio di tutte le aziende agricole della Puglia, ce ne sono tantissime altre che lavorano regolarmente, che sono messe in grave difficoltà da quel modo di fare impresa, perché oltre che il rischio per la vita delle persone si fa concorrenza sleale nei confronti delle imprese corrette. Emiliano lo sa bene, galera per queste persone, perché non è che con una bella investigazione non si può scoprire. Scusi Di Pietro, si sa bene chi sono i caporali e soprattutto i mandanti, e in galera devono andare. Nel momento in cui questa campagna del pomodoro scemerà e quindi il campo sarà meno frequentato di oggi, noi, perché questo l'ho preteso e lo pretenderò, noi abbiamo deciso di chiudere quel campo totalmente. Dans cet avion, il est écrit, arrêtons de tendre la main, qu'il faut travailler pour sortir ce continent du tout. C'est le dernier appel. E allora entriamo nel cosiddetto ghetto di Rignano Garganico, una delle molte sfaccettature di quella storia che chiamiamo immigrazione. Sono, lo sapete, lavoratori nei campi pugliesi, sono invisibili perché molti non hanno i documenti, lavorano in nero, sono loro stessi neri, nel senso che molti vengono proprio, sono d'origine africana. Come diciamo prima, però, è anche grazie a loro se alla fine ritroviamo nei nostri supermercati e sulle nostre tavole frutta e verdura. Adesso hanno anche aperto una radio. Entriamo, diciamo, da una porta privilegiata, da una porta privilegiata particolare. Per noi che siamo radio, entriamo dentro Radio Ghetto. Sì, signore. E abbiamo con noi Ibrahim, che è bracciante e speaker di Radio Ghetto. Ibrahim, ciao, buonasera. Ciao, buonasera alla radio. Buonasera. Senti, ma siamo in diretta anche su Radio Ghetto in questo momento? No, non siamo in diretta. Ah, ok. A noi ci piaceva il fatto che in realtà eravamo noi gli ospiti vostri, e invece non è così. Pensavamo di essere in onda anche noi come vostri ospiti. Sarà per la prossima volta, Ibrahim. Sì, sarà per la prossima volta. Di dove sei? Da dove vieni, Ibrahim? Io sono del Burkina Faso. Quanti anni hai? 5. Quanti anni hai, Ibrahim? Ho 25. 25 anni. 25. E invece da quanto tempo ti trovi in Italia? 3 anni. Sì. Passato, manca in settembre, faccio 4 anni. Ah, ok. E tutti e 4 anni in radio? No, perché 4 anni no, non c'era la radio. Ah. Senti, invece da quanto tempo però vivi lì a Rignano Garganico? Da 3 anni. Da quanto? Da quanto tempo? 3 anni. Praticamente da quando sei arrivato in Italia sei quasi sempre stato lì? No, sono stato a Mantova prima. Sì. Poi non ho riuscito ad avere un lavoro che ho sentito questo posto parlare nostri amici africani, quindi così sono arrivato qui. Che c'era lavoro, ti hanno detto guarda vai lì che c'è anche che lavoro. C'è lavoro. Ah. E quanti siete adesso lì a vivere nel ghetto di Rignano? Quante siamo persone quasi ci sono? 2500 abitanti. Ah però, ecco, raccontiamo anche che cos'è questo ghetto. Ci sono persone che lavorano, quasi tutti che sono braccianti, che lavorano nei campi o anche altre persone che non c'entrano nulla con la campagna? No, tutti lavorano in campi, perché non c'è nessuno qua che non lavora in campi, tutti noi che andiamo a lavorare in campi. E questo campo è nato, questo ghetto che si chiama così di Rignano Garganico, è nato tanti anni fa, ormai sono tanti anni che c'è, vero? Sì, comunque è nato tanti anni fa, tantissimi anni passati, ma però non c'era io. Non c'eri tu, chiaramente. Certo. E uno che arrivando lì nel ghetto di Rignano Garganico, che cosa vede? Vede delle piccole case costruite con lamiere, baracche, no, con plastica e cartone. Plastica e cartone? Sì, legno, quindi facciamo le baracche. Sì. E quando piove è un bel problema, però. No, quando piove alcuni l'acqua entrano, alcuni che non hanno messo bene e che anzi l'acqua entrano. Sì. Alcuni hanno riuscito un po' a mettere abbastanza l'acqua sopra. Cioè, in alcune non entra l'acqua perché siete riusciti a mettere della plastica. Sì. Perfetto, meno male. Perché anche per trovare quelle plastiche. Ibrahim, resta con noi, dobbiamo fare una piccola pausa per le informazioni sul traffico. Tu lavori in una radio, quindi sarai abituato a questi stacchi. E poi torniamo tra un attimo e continuiamo l'intervista da dentro il ghetto di Rignano Gargani. Si può fare l'attualità anche d'estate. Eccoci qua, cari ascoltatori, di nuovo buonasera. Siamo in compagnia di Ibrahim, bracciante e speaker di Radio Ghetto, dal ghetto di Rignano Garganico. Ibrahim, siete più o meno tutti queste 2500 persone che lavorano, che stanno dentro il ghetto, persone che lavorano nei campi, no? E chi sono i datori di lavoro, quelli che vi danno lavoro? Sì. C'è un problema, Ibrahim. Dove andate a lavorare? Cioè, nel senso, vi vengono a prendere coi furgoni? Come funziona? Chi è che vi dà questo lavoro nei campi? Andata via la linea con Ibrahim? Quello che temevamo è successo, perché il collegamento col cellulare, esatto. Perché dovete sapere che, a parte gli scherzi, non c'è neanche una linea telefonica fissa, stiamo parlando di una situazione di estrema precarietà con delle baracche. Sì, una baraccopoli però con 2500 abitanti, che è un paese italiano di una certa dimensione. Ed è quella cosa che diceva Emiliano, il neo presidente della regione. Lo chiuderemo, lo toglieremo di mezzo. Chissà quante volte l'abbiamo sentito dire, ma al momento. Anche perché il problema, non è di Milano, nel senso che queste sono persone tutte che lavorano nei campi, poi lavorano in nero, non lavorano in nero, però fanno un lavoro che evidentemente serve, nel senso che vengono chiamati e pagati per fare quel lavoro. Vediamo che se si può semplicemente lasciarli a casa. A recuperare Ibrahim, ci sei? Ibrahim, ci senti? C'è un problema? Eccolo qua. Ci senti bene adesso, Ibrahim? Sì, ti senti benissimo. Ah, meno male. Ti stavo chiedendo quando andate a lavorare, come funziona, chi sono i datori di lavoro, per chi lavorate voi? No, sono i datori di lavoro, sono italiani, ma è loro che, perché tra di noi ci sono quelle persone che girano a cercare, a parlare con dei datori di lavoro, sì, che italiani. Sì. C'è qualcuno che va in giro di voi a cercare lavoro e ha dei contatti, parla con delle persone e vi dicono di andare in un posto o in un altro. Ma è una sorta di sindacato, è quasi un sindacato vostro all'interno. Sì, che anche loro prendono il beneficio su di noi. Mm. Ah, ecco. Ma e quindi voi cosa fate? Dovete pagare le persone che poi vi portano a lavorare? Sì, ogni giorno che ti porta a lavorare ti paghi 5 euro. Paghi 5 euro per andare a lavorare? Sì. E le paghi a chi guida il furgone che poi ti porta sul posto di lavoro? Sì. E invece la paga, Ibrahim, la paga che ricevete per il lavoro, per una giornata di lavoro, come funziona? Quanto vi pagano? No, non si paga, perché se è la giornata pagano 25 euro che lui prende 20, che 5 che tu rimani con 20. Cioè te ne danno 25, 5 li dai all'autista che ti ha portato al posto di lavoro e te ti restano in tasca 20 euro. Sì, sì. Così. Per quante ore di lavoro? Può essere alle 6 o alle 5 e mezza che iniziate e magari finite alle 5 o 6 o 7. Se dipende... Capo. Fino a che ora? Fino a che ora si può iniziare alle 5 e mezza, alle 6 o alle 7? Fino a che ora di sera? Fino alle 6, 7. Fino alle 6, 7, quindi insomma 12 ore. 12, sì. 12 ore. E nel frattempo vi danno il pranzo? Vi fanno mangiare? No, dobbiamo portarci noi i panini. Potete portare. Quindi da questi 20 euro poi chiaramente bisogna togliere anche il costo del panino. E ci sono però i pomodori li trovate nel campo? Sì, anche così che troviamo. Ah, scusami, è una brutta battuta. Così ci sono anche degli italiani lì con voi o siete tutti stranieri? No, noi non abbiamo nessuno italiano qua, solo che alcuni volontari che vengono qui alla radio sì? a visitare, okay. Poi tornano. Cioè a lavorare siete tutti stranieri, però diciamo ci sono degli operatori, delle persone che vi hanno dato una mano a creare questa radio. Tu adesso sei nella postazione della radio? Sì, siamo in diretta anche alla radio. Ok, benissimo. Senti, ma è molto faticoso fare questo stare 12 ore sotto il sole a lavorare, immagino di sì. Ma è difficilissimo perché sole è abbastanza caldo, a volte anche si tira la testa, poi mattina fino a sera che è difficile, che è tanti orari. Sì, sai che nei giorni scorsi ci sono state tre persone che sono morte, si è detto dei braccianti, in alcuni casi era chiaro quello che era successo, i nomi sono Mohamed, un sudanese di 47 anni morto ad Avetrana, Paola, una donna italiana di 50 anni di Andria, e poi Zaccaria a Polignano a Mare. Le avevi mai conosciute queste persone? No, non lo conoscono, sì. Ma però abbiamo sentito anche qui noi. Ma capita spesso che qualcuno si senta male durante il giorno perché c'è troppo caldo, perché è stancante? No, ogni giorno ci sono le persone qui che non stanno bene, che stanno malissimo. Alcuni fanno un incidente, quindi qui sempre ci stanno problemi di salute. E in quel caso lì a chi vi rivolgete se c'è un problema che qualcuno ha un problema di salute? Se uno si sente male in mezzo alla campagna, a chi chiedete aiuto? No, nessuno, non andiamo a chiedere a nessuno, siamo sempre qui finché come possiamo. Tu hai documenti in regola o sei irregolare? Sei clandestino? No, non sono clandestino. Hai documenti in regola? Ha data via di nuovo la linea? Con Ibrahim? Vediamo un po'? Sì, forse sì. Che peccato, proviamo a recuperarla. Perché volevo arrivare tra l'altro a un tema con lui, cioè quello del se ho bisogno di aiuto dove vado e posso andare a bussare in chiesa, visto che è polemica di questi giorni sul fatto che è stato detto il Vaticano li aiuti, li prenda, li accolga in casa loro, eccetera, eccetera. Siccome stiamo parlando di un contesto dove, vedete, di aiuti mi pare che non ce ne siano, neanche di hotel a 5 stelle. Non mi sembra. E volevo vedere se lì arrivava la Chiesa, in alcuni casi, o se neanche la Chiesa, diciamo, girava la testa dall'altra parte, i preti, la Chiesa, rispetto a una situazione che comunque avete capito, sono braccianti, sono 2500 che vanno a lavorare nei campi, qualcuno glieli darà questi stipendi, qualcuno li pagherà, qualche datore di lavoro. È indubbio che siano indispensabili. Qualcuno ci ha mandato un SMS, sì, dicendo portano via il lavoro agli italiani che non sono disposti a lavorare per così poco. Io ho la sensazione che lì in realtà non ci siano italiani che hanno intenzione di lavorare a raccogliere i pomodori, però se invece qualcuno ha delle informazioni più precise di italiani che non vengono assunti perché ci sono i braccianti che prendono meno soldi, che ci chiami molto volentieri. Ci abbiamo di nuovo Ibrahim? Ci senti Ibrahim di nuovo? Ciao. Eccolo. Ibrahim? Sì. Eccolo, è tornato. Ci stavi dicendo che tu hai i documenti, quindi hai il permesso di soggiorno, non sei un clandestino? No, permesso di soggiorno in regola. Ok, e facendo una percentuale da 0 a 100, quanti hanno i documenti come te lì e quanti sono irregolari? metà e metà, sono quasi tutti irregolari, oppure sono tutti come te che hanno i documenti? No, no, qui ci sono 50% regolare e 50% irregolare. C'è un po' di tutto. Senti, sei mai stato a chiedere aiuto in una chiesa da un prete? Sai che a volte quando non è disperato va a bussare alla porta di un prete. No, no, io non sono mai stato lì. Io ho sempre sto qui a cercare a lavoro, a lavorare, sì, anche se è poco che trovi, però mi arrangio. E di controlli da parte di qualche autorità che veniva a controllare, diciamo, l'illegalità di questa situazione, è mai arrivato qualcuno? No, no, non è mai arrivato qualcuno, a parte che uno che era venuto qua a sistemare i rubinetti. Sì. L'anno scorso che ha dato i rubinetti, ma quest'anno sono rotti tutti. Mm. E pensavamo magari che tornerà quest'anno anche a sistemare. Invece non l'avete ma visto. Però non è tornato. A parte quello, anche l'anno scorso c'era i bagni, sì, che portavano. Bagni, ma quest'anno non hanno portato. Quindi non avete bagni. Ma no, scusami, no. Ma come funziona la gestione all'interno di questo ghetto? Cioè, c'è qualcuno che comanda? Come siete divisi fra di voi? Quando uno arriva si sceglie da solo la baracca o gli viene detto tu dormi qui? No, no, non è così, perché ognuno che vengo qua si viene, devi conoscere qualcuno. Devi conoscere qualcuno, non arrivi se non conosci qualcuno. Sì, perché lì a chiedere anche, guarda, io conosco qualcuno là, quindi sì, se tu vuoi andare là io lo chiamo questa persona, lo dico e poi tu vai da lì. Nel ghetto, Ibrahim, si sta soltanto se si lavora in campagna o si può stare anche se non si sta lavorando in quel momento lì? No, ognuno qua ha voglia di lavorare, perché se non lavoro qua non hai niente, non puoi, non puoi stare. Senti, e invece la radio che storie racconta, che storie raccoglie? Storie di braccianti come te? La radio? Sì. Che storie racconta? Che storie, di cosa parlate alla radio del ghetto? No, noi alla radio abbiamo creato questa radio per farci passare le nostre informazioni fuori di qui al ghetto. Sì. E abbiamo anche per ascoltare le nostre culture, ascoltare la nostra musica culturale senegalese, gambiano, maliano, burkina, ivoriano, tutti insieme. Sì. Siete quasi tutti, africani, quindi diciamo mandate musica africana. Sì, sì, africani, poi incontriamo a parlare. Senti, ti posso chiedere una cosa per il futuro, guardando un po' in avanti. Hai un sogno, qual è il tuo sogno? Cosa vorresti fare da grande? Io, la mia soluzione per avere un lavoro fuori di qui. Sì. Poi faccio una vita normale. Un lavoro, poi, una casa e magari sposarsi. Queste cose qua. No, sì, sposarsi, sì, quelle fa parte dei miei sogni. Sì. Ma in difficoltà dove sto adesso, che quindi non riesco a pensare quello in questo momento. Quindi in questo momento soltanto avere un lavoro e una casa, un lavoro diverso da questo e una casa. Sì, mi scuso. In bocca al lupo, Ibrahim. Ciao. Grazie. Ibrahim. A te e a tutti quelli che stanno lì con te. Grazie. Grazie mille. Grazie, grazie a voi. Grazie a voi, ciao. 800 24 00 24. Comunque la pensiate, credo che sia, comunque la pensiate sul tema dell'immigrazione, sull'accoglienza, sui dibattiti che si fanno, insomma, giustamente anche nei talk show, sulle varie posizioni eccetera. Credo che fosse comunque una storia così interessante da ascoltare, no? Sì, ed è anche un si può fare, ovvero di prendere la notizia dell'immigrazione di cui parliamo da mesi, direi ininterrottamente, di prenderla dal punto di vista di qualcuno che cerca di trovare una soluzione, ovvero fondando una radio. Ci siamo anche un po' commossi. Infatti la musica era di Tikenja Fakoly, scelta dallo stesso Ibrahim, visto che è un radiofonico, gli abbiamo chiesto di scegliere a lui la musica che avrebbe gradito come accompagnamento. Ok, ci risentiamo tra poco, dopo la pausa. 800 24 00 24. Dove ti piacerebbe andare quest'estate? In un posto poco conosciuto e possibilmente a buon mercato. E che cosa ti piacerebbe fare? Riempirmi gli occhi di cose belle. Con chi ti piacerebbe partire? Con la mia famiglia e i miei amici a quattro zampe. E tu? Con i miei amici, con mio marito o forse anche da sola. Sono Annerita D'Ambrosio. Sono Valeria De Rosa. Ogni settimana vi accompagneremo in giro per l'Europa. Vi aspettiamo a Globetrotter 24. Globetrotter 24, il sabato alle 16 e la domenica alle 17:30 su Radio 24. Si può fare. L'attualità anche d'estate. Allora, cari ascoltatori, eccoci qua di nuovo. Buonasera da Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini, buonasera a tutti. Adesso cominciamo con i vostri interventi. Al numero verde 800240024 andiamo con Roberto che chiama da Milano. Buonasera Roberto. Sì, buonasera. Prego. Volevo solo puntualizzare una cosa. Sì. La prima botta di immigrati italiani negli Stati Uniti è stata fatta in maniera scientifica dopo la guerra, nel senso che erano state organizzate le agenzie di collocamento che reclutavano mano d'opera, soprattutto nel Meridione e nel Veneto, sì, offrendo un posto di lavoro, ok? Era tipo le agenzie interinali che ci sono oggi. Tu cosa sai fare? Muratore? Benissimo, vieni reclutato. Tu cosa sai fare? Meccanico? Benissimo, vieni reclutato. Dopodiché ti caricavano sul piroscafo in terza classe, che voleva dire uguale alla stiva, ti portavano a Ellis Island, sì, stavi 40 giorni in quarantena, perché avevano una paura maledetta di una malattia degli occhi e ti mettevano in quarantena per quel motivo lì, e dopodiché ti venivi già smistato e sapevi già dove andare a lavorare. La seconda ondata invece sono stati i ricongiungimenti. Questo per quanto riguarda gli Stati Uniti. Per quanto riguarda il Belgio, adesso cosa facciamo? No, però scusa Roberto, è interessante, no, ma è non molto facciamo interessante, la storia però di immigrazione. Quello che mi chiedo, visto che lei è esperto, che no, così no, è gente che non è andata lì all'avventura, sì, così. No, no, ma è vero. Beh, no, c'è un sacco, mi scusi, però c'è un sacco di gente anche che è andata all'avventura, nel senso che abbiamo letto, abbiamo visto di persone che andavano negli Stati Uniti e non sapevano già che lavoro avrebbero fatto. No, no, erano già e avevano già il posto dove andare, arrivavano lì. Ma non tutti, però mi scusi. Allora, la prima venivano reclutati e avevano già la destinazione. La seconda, per esempio, questo per gli Stati Uniti. Per quanto riguarda il Belgio, c'è stato un accordo tra l'Italia e il Belgio, sì, fatto da De Gasperi, per cui noi avremmo pagato i danni di guerra mandando manodopera in Belgio. Marcinel è un esempio, sì, tale quale. Ma lei è un cultore della storia dell'immigrazione o queste cose? No, bisogna sapere le, sì, cose, se no si parla così a vanvera. E questo, sì, Roberto, a parte, dico solo una cosa, poi la faccio proseguire. L'unica una differenza che io vedo sicuramente è che quell'America lì era in crescita e c'era posto per tutti. Adesso sicuramente da noi non c'è questo sviluppo economico, quindi fare quello che dice lei non è possibile. Però arrivando all'oggi, questi ragionamenti che lei ha fatto sul passato, dove, cosa la portano a concludere? A concludere che questa gente qua viene qua all'avventura, nel senso che viene qua sperando di trovare chissà che. Ma e poi alla fine cosa trova? Trova quello che gli dà 20 euro, 25 euro al giorno, e gli dà 25 euro al tizio che lo porta con la macchina. Sì. Però evidentemente noi abbiamo bisogno di questi braccianti. Bravo, ma se scusa, ti posso dare il tuo? Ma certo, ci mancherebbe. Allora, se tu ti presenti in un campo, raccogli i pomodori a un euro all'ora, vuoi che quello non ti piglia? No, vabbè, però non la ribalti in questo modo, nel senso che qualcuno i pomodori li deve cogliere, quindi evidentemente loro si organizzano in modo da avere della manodopera molto mal pagata che mettono dentro nel ghetto e buonanotte al secchio, questa è la questione. Più gente arriva, più si gioca al ribasso. C'è quello certo che chiede un euro e c'è quello che chiede 50 centesimi. Poi arriva quell'altro che chiede 25. Andiamo al ribasso e andiamo allo Quindi lei dice: se non si accettassero più immigrati, improvvisamente i braccianti verrebbero pagati 12 euro all'ora con anche i contributi. Vabbè, certo, indubbiamente. Se ti servono, li devi pagare quello che è giusto che siamo pagati. Scusa, Sì, ho la sensazione che non ci sia nessuna intenzione di pagare 12 euro all'ora più i contributi. E allora fai marcire i pomodori sulla pianta, e questa è la seconda ipotesi, o li raccogli o li fai marcire, certo. Se li fai marcire non guardi il tubo. Oppure l'ipotesi che mi sembra che stanno attuando, che è quella di prendere dei simpatici braccianti, pagarli pochissimo e chiuderli dentro in un ghetto. Aspetta, certo, se, allora la domanda è l'offerta. Se l'offerta di lavoro è tanta e la domanda è poca. No, no, ma questo sicuramente è una legge della natura, la legge della domanda e dell'offerta. Il problema è che se si stanno violando delle leggi, dei contratti, se muoiono delle persone, forse bisognerebbe semplicemente andare magari a fare qualche controllo, evitare che delle cose del genere, tra l'altro sotto gli occhi di tutti, perché quello di cui parliamo, il ghetto di Rignano Garganico, c'è, credo di non sbagliare, da 15 anni, si è formato in questi, quindi è una cosa che è ampiamente sotto gli occhi di tutti. Grazie comunque Roberto, buona serata. Grazie mille, buona serata. Pierpaolo da Rimini, Pierpaolo buonasera. Buonasera dottor Maurizi. Eccoci qua. Senta, buonasera. Io volevo dare una mia opinione, anche perché ho ascoltato l'intervento del signor Ibrahim. Allora, io come attività professionale mi reco spesso presso aziende del mio territorio e devo constatare che oggettivamente la presenza di stranieri nelle nostre aziende oramai a fare attività che gli italiani non vogliono più svolgere è notevole. Sì. Ma la cosa oggettiva dal mio personale punto di vista è questo: noi tutti i giorni guardiamo il telegiornale e vediamo che arrivano migliaia e migliaia di migranti. Io non sono contrario all'accoglienza, però la cosa che mi indigna è, oggettivamente, quando uno fugge da una situazione di guerra e ha veramente necessità di essere soccorso, dobbiamo essere i primi a dare una mano. Il problema oggi è che in realtà queste persone, che sono persone che hanno bisogno, scappano dai loro territori, dalle loro terre e vengono qua da noi. Allora, oggettivamente è insostenibile il numero di accoglienze che dobbiamo fare noi. Poi sono il primo a riconoscere che quello che ha detto il signor Ibrahim è inaccettabile, perché siamo in Italia e quindi queste cose non devono esistere. Però dovremmo regolamentarle, controllare chi arriva e a quel punto lì effettivamente chi ha bisogno di aiuto. Sicuramente attrezzarci un po' per l'accoglienza di un'ondata che ormai non possiamo più definire emergenza, perché da quanto tempo parliamo di questa emergenza e che quindi non è più un'emergenza, no? Lo sappiamo, quindi bisogna organizzarci in qualche modo. Quello che sembra ormai un po' sotto gli occhi di tutti è che diciamo un po' di così di pressapochismo c'è stato sicuramente da parte del governo e di chi doveva gestire questa questione, affidandola ai prefetti, delegandola alle regioni, e qualcosa è sfuggito di mano sicuramente. Andiamo ancora con chi andiamo? Leonardo da Milano. Leonardo, buonasera. Sì, buonasera, buonasera a lei. Buonasera, pronto? Sì, prego, prego, prego, la sentiamo. Pronto? La sentiamo, prego, buonasera. Sì, buonasera, Alessio. Dunque, le telefonavo, le ho telefonate già ieri sera, a dire la verità, per intervenire sul degrado che c'è a Roma, eccetera. Ne approfitto ora, riprendo un po' il discorso di ieri sera, intanto per scusarmi con voi, perché da principiante, invece di tenere il telefono attaccato all'orecchio, ho ascoltato la radio e nel frattempo ho perso la sua chiamata. Sì. E quindi di questo me ne scuso. Prego, non si preoccupi. Ecco, in secondo luogo, siccome diciamo il tema di cui mi interessava ieri sera era il degrado di Roma, e invece stasera vedi che l'argomento verte sulla... Sì, ma noi siamo aperti a tutto, ma non si preoccupi, vabbè, vada tranquillo. Sì. Due cose. Sì. Vediamo un po' se ci riesco. Noi siamo, io ho una certa età, più di 70 per dire. Sì. E ho vissuto nei periodi post-guerra dove la povertà era veramente ai limiti dell'impossibile, però la gente viveva in ambienti puliti. Stiamo parlando d'Italia. Esatto. Va bene. Stiamo parlando d'Italia, parlo di Napoli in particolare. Perfetto. Dove avevo degli amici e che vivevano nei cosiddetti bassi, che però uno poteva, come dire, mangiare per terra. Tanto sì. Erano puliti e ordinati, anche perché c'era tanta gente messa in una stanza sola e quindi dovevano veramente essere ben ordinati, altrimenti... Vabbè, e arrivando invece all'oggi, lei dice che oggi non è più così. Detto questo... A Roma ieri sera ho sentito l'intervento del 5 Stelle, il quale se la prendeva un po' con i cittadini che sono che buttano le carte a terra, che lasciano i commercianti che non puliscono. Allora, tutto quello che si vuole, che ci sia un degrado da parte della cittadinanza. La parte dei cittadini che sono maleducati, eccetera, è vero. Ma è altrettanto vero, però, quello che dicevo anche alla signora che mi ha... sì, che mi vai ha, Leonardo, forza. È anche vero una cosa, che se la gente che circola a Roma è tanta, e poi dopo un po' riempi i cestini e questi cestini non vengono votati, ragazzi, la roba cade in terra. Mi arrendo, Leonardo, mi arrendo. Se questa è l'obiezione, che i cestini si riempiono perché a Roma ci sono tante persone, vabbè, mettiamo un po' di cestini in più, che oppure svuotiamoli. Il concetto è che è un concorso di colpe. Da un lato ci sono i cittadini che forse buttano in terra, che tra l'altro io, se devo essere onesto, non penso tanto che il problema sia buttare a terra ogni tanto una cartaccia. È che quando abbiamo visto le immagini del degrado con tutti i cittadini romani che si lamentavano, in terra c'erano anche dei materassi, dei comodini. Ora, i materassi e i comodini non si buttano in mezzo alla strada, si chiama il recupero rifiuti speciali e hanno un altro iter. Quindi se tu già butti un materasso in mezzo alla strada sei un po' colpevole anche tu, non è colpa, diciamo, della nettezza urbana, quello di non portare via i materassi che tu un giovedì così ti svegli e butti in mezzo alla strada. Andiamo con un altro ascoltatore, Augusto, che ci chiama da Trieste. Buonasera. Buonasera, buon lavoro, grazie. Buonasera qua. Prego. Dunque, mi riferisco allo stipendi dei sindacati. Sì, sì. Io non metto in discussione la quantità, perché però c'è un proverbio arabo che dice: se la foglia si muove il vento tira, se non sono 150 saranno 70.000 netto al mese. Comunque, dato che sono sindacati e sono lì per fare gli interessi, diritti e doveri delle imprese e dei lavoratori, sarebbe opportuno dare a loro una paga mediante i risultati ottenuti nel lavoro che loro hanno fatto. A questo punto domanderei, se io fossi lei alla radio, sì, a tre sindacalisti cosa hanno fatto in 10 anni che hanno portato a casa dei benefici per gli operai. Loro hanno fatto fare a noi solo dei grandi scioperi, però degli stipendi, se poi volete sapere quanto guadagnano, basta che le facciate mettere in internet il loro patrimonio immobiliare, abbiamo risolto il problema. Sì, devo dire grazie, buona serata, che oggi, tra gli altri, a puntualizzare il segretario della FIMCISL Bentivogli, che ha detto che la categoria dei metalmeccanici CISL, tutti i dirigenti, ma anche gran parte della CISL, ha già gli stipendi online, comprese le proprietà immobiliari, e lui diceva che questa cosa dello scandalo degli stipendi di questi dirigenti è un caso limite, perché tutti gli altri hanno massima trasparenza, si sa tutto online, potete anche andare a verificare sul sito se è vero quello che diceva Bentivogli, comprese le proprietà immobiliari, anche se questo ascoltatore suggeriva una specie di stipendio a punti anche per i sindacalisti, misurabile a seconda di quello che si riesce a raggiungere. È molto difficile, perché bisogna capire poi se è quel dirigente che riesce a raggiungere o se è la presidente o chi. Andiamo col traffico, torniamo tra noi. Si può fare l'attualità anche d'estate. Vuole dare lo stop ai venditori ambulanti sulle spiagge italiane, perché è l'autore di una proposta che, come si dice, fa discutere: istituire dei checkpoint sulle spiagge proprio per controllare i venditori ambulanti, vedere se hanno i documenti in regola, se sono clandestini e quant'altro. È responsabile immigrazione di Forza Italia. Buonasera, Giorgio Silli. Sì, buonasera a voi, salve. Silli, buonasera. Non so se ha sentito l'intervista precedente, siamo partiti da un'intervista ad un bracciante del ghetto di Rignano Garganico, dove stanno... No, purtroppo no, perché mi sono collegato telefonicamente adesso, sto rientrando proprio da Via Reggio, dove ho fatto un giro tra i bagnanti e tra sì, i Bucumbra, per capire un attimino la situazione. Ora, come dire, umilmente le devo dire che la mia proposta non è niente di trascendentale, semplicemente prendo atto del fatto che negli ultimi anni sono aumentati vertiginosamente i Vucumpra, sì, e chiaramente a quelli regolari che iniziarono 20 anni fa sulle nostre spiagge, erano quasi tutti marocchini. No, infatti era, scusi, era proprio il senso della mia prima domanda, perché venendo da un'intervista su un caso così grosso come il ghetto di Rignano, e il presidente della regione Puglia Emiliano che dice dobbiamo chiuderlo, ci stanno 2500 immigrati, non tutti clandestini, lavorano nei campi, però nell'illegalità più totale, con stipendi da 20 euro al giorno, è chiaro che questi sono i problemi più grossi, per cui la sua proposta, però lei stava dicendo, la proposta è relativa a cosa? Che poi il punto è sempre quello, il controllo del commercio abusivo, oppure andare incontro al fatto che i bagnanti sono infastiditi da queste persone? Beh, guardi, no, è molto semplice, in maniera schematica e senza grande polemica politica. Le dico, l'ambulante sulla spiaggia, che non è più uno ogni tanto, se lei va in Versilia, se lei va in qualsiasi spiaggia, anche nella stessa Sardegna, lei vedrà che in 5-10 minuti gli passa almeno 2, 3, 4, anche 5 ambulanti nelle spiagge più affollate. È molto semplice, agli ambulanti regolari di un tempo oggi si sono sommati i nuovi arrivi sostanzialmente, chi cerca una forma di sostentamento e quindi ha necessità di lavorare a tutti i costi. E sulla spiaggia vediamo una stragrande maggioranza purtroppo di persone senza titolo di soggiorno, quindi clandestini. Anche perché si spostano dalle città, vanno un po' in vacanza loro, perché a Milano non c'è più nessuno a Milano e quindi si devono spostare per trovare dei clienti. Esatto, tecnicamente ci sono delle macchine, dei pulmini dove si raggruppano, che li scaricano ad ogni stabilimento balneare e iniziano il loro giro. Per l'amor di Dio, molti bagnanti mi hanno detto vanno regolamentati, sono troppi. Però, ma sono anche tanto comodi. Siamo tutti d'accordo che sia, come dire, siano tra virgolette, come ho sentito dire oggi, poverini qualcuno. È anche vero però che molti di loro sono clandestini e quindi espellibili, non fanno uno scontrino, non fanno una ricevuta e vendono merce contraffatta. Quindi io credo che non sia questione di essere buoni o cattivi, è semplicemente questione di fare le cose come devono essere fatte. Poi c'è l'ipocrisia da parte di quelli che dicono ce ne sono troppi, ma allo stesso tempo sono i primi ad acquistare la merce contraffatta, perché è comoda, no? Sulla spiaggia, sì, comprare la finta borsa di Gucci a 30-40 euro piuttosto che altro. I checkpoint, come dire, fa quasi sorridere, fa impressione, no, la parola checkpoint. Stamattina un giornalista l'ha scelta, mi ha detto, lei o è una sintesi giornalistica? Non ho capito. No, l'ho scelta io, scelta io. Stamattina un giornalista mi ha fatto l'esempio del checkpoint Charlie, quello che c'era. Ricorda un po', esatto, il muro di Berlino, il checkpoint. Beh, la parola checkpoint quello ricorda, il passaggio della cortina di ferro. Infatti oggi ho dovuto spiegare un po', no, anche a mezzo stampa, che chiaramente non intendo una trincea con i sacchi di sabbia e le armi. No, io intendo delle forze dell'ordine, siano esse polizia municipale, polizia, carabinieri o addirittura, perché no, l'esercito, semplicemente ai quali assegnare 10-15 stabilimenti balneari, e si muovono, camminano, vanno su e giù per questi stabilimenti balneari, incrociando gli ambulanti, chiedono i documenti. Ma ci sono queste forze dell'ordine? Perché sembra, per esempio, abbiamo parlato in questi giorni molto, esatto, del controllo, no, necessario nelle discoteche, e abbiamo sentito dire anche ad alcuni responsabili delle istituzioni, ma non ci sono abbastanza. E poi arriviamo, diciamo, sempre alle polizia, solite. I carabinieri francamente sono oberati e veramente li ringrazio tanto, perché nonostante sempre meno come dire, soldi a disposizione, straordinari eccetera, riescono a fare comunque un buon lavoro. Però abbiamo l'esercito. Sì, l'esercito però, nell'operazione Strade Sicure viene utilizzato per fare dei controlli. Chiaramente non può arrestare, non può fermare senza un cioè lei impiegherebbe l'esercito anche per controlli sui WCumpline in spiaggia? Guardi, ora lei non si immagini l'esercito in tuta mimetica vestiti, ma potrebbe essere. Noi leggiamo spiaggia, esercito e vediamo subito la Normandia, è ovvio, sembra c'è poco da fare. Lo sbarco. Perché no? Io nella mia città, dove io sono stato assessore all'immigrazione, a Prato come in tante altre città, c'è stata l'operazione Strade Sicure con l'esercito. L'esercito gira per la città, ferma, chiede dei documenti. Poi, qualora vi fosse necessità di arrestare o di fermare in maniera più seria, sì. Qualcuno chiaramente deve intervenire, la polizia, però, carabinieri, ma sarebbe già un deterrente, mi creda. Però posto che siamo d'accordo sul fatto che, diciamo, i Vucumpra, chiamiamoli così, i venditori ambulanti, sono un po' la parte più folcloristica della questione immigrazione, che ha altri aspetti più grossi in questo momento, come giudica invece, anche drammatici, l'operato del ministro dell'Interno Alfano su questa gestione in generale? Il suo partito è stato abbastanza critico, nonostante, diciamo, fino a poco tempo fa eravate un unico partito alleato, però adesso Alfano come lo giudica? Troppo permissivista, debole, molle? Non amo assolutamente fare la politica urlata e gridata. Spesso sto dietro le quinte, cerco di dare delle linee, come dire, politiche a miei colleghi sull'immigrazione, che è una materia, mi creda, difficilissima e complessissima. Detto questo, Alfano era un uomo di centrodestra, si trova a dover per forza rimanere insieme a Renzi e quindi si comporta di conseguenza. Io credo che in cuor suo Alfano stia soffrendo le pene dell'inferno da diversi mesi a questa parte. Ma ci sta dicendo che non è più un uomo di centrodestra? È uno scoop questo? Si è quello che si dimostra di essere, sostanzialmente. Uno può anche in quel proprio essere di centrodestra, ma se si comporta da uomo di sinistra, lei capisce che l'elettore si muove di conseguenza. Ieri sera in televisione c'era un esponente del nuovo centrodestra che fece una grande filippica sull'immigrazione. Alla fine io gli dissi: bene, sì, bravo, però aiuterebbe capire intanto da che parte state, se siete d'accordo con la gestione Renzi del fenomeno oppure no. Questo sarebbe già... Cosa c'è della gestione Renzi del fenomeno che non va bene? Beh, la gestione dell'immigrazione, intesa non come sbarchi e come profughi, ma dell'immigrazione ordinaria di tutti i giorni, è qualcosa di goliardico. Cioè si sta veramente rasentando una gestione quasi adolescenziale. Per quanto riguarda i profughi, purtroppo è un problema enorme, è quasi un'apocalisse, se proprio vogliamo usare dei termini di chiesa, dal momento che Monsignor Galantino ieri è entrato nel dibattito. A proposito di chiesa, però, io le devo chiedere questo: tra Monsignor Galantino, che dà dei piazzisti quasi direttamente ho risposto un'ora fa con una lettera aperta, tra le altre cose. Ecco, sì, adesso magari se ci vuole leggere qualche passaggio della lettera o anche no, però io le chiedo, con chi sta lei? Tra Galantino, che dà dei piazzisti a quelli della Lega che strumentalizzano secondo lui la questione dell'immigrazione, e Salvini, che invece, diciamo, attacca direttamente il Vaticano, prendeteveli a casa vostra, lei con chi sta? Beh, allora, diciamo che tra la ruspa e il campo rom in mezzo ci sta tante cose, insomma, si può anche avere delle posizioni più moderate. Io non amo attaccare la Chiesa, neppure quando entra a gamba tesa in maniera così inelegante nel dibattito politico, perché Galantino ha sbagliato profondamente rivolgendosi a una certa parte politica, entrando nel dibattito politico a gamba tesa così. Beh, del resto, come dire, Salvini fa Salvini e Galantino fa il vescovo, anche se secondo me ieri lo ha fatto non proprio in maniera eccellente. Io non mi sento di fare come Salvini. Nella mia risposta, se vuole le leggo tre righe, ce l'ho davanti, cerco di essere un pochino più umile. Ce le legga in anteprima. Le leggo in anteprima, io faccio tutto un'introduzione dove mi rivolgo all'eccellenza reverendissima Galantino e a tutti gli altri eccellenze e eminenze che sono intervenuti sulla questione immigrazione, scrivendo chiaramente che io non sono uno battezzato e basta, che la Chiesa non sa neanche dov'è. Io vado alla messa molto spesso, confesso, prego, osservo i precetti, osservo i digiuni. Molto spesso non è sufficiente però per la Chiesa, almeno, tutte le domeniche doveva dirci. No, stavo scherzando, le chiedo scusa. No, per molto spesso intendo più spesso che ogni domenica. Ah, perfetto. Detto questo, ho fatto un'introduzione per far capire a Monsignor Galantino e alla Chiesa italiana che non tutti gli interlocutori, come dire, sono così distanti dalla Chiesa. Certo. Io voglio che la mia Chiesa dia delle linee che siano percorribili e non si può sognare di accogliere tutti. E io ho scritto: è fondamentale accogliere, indispensabile sfamare e curare, ma è impensabile ed impossibile farlo con un numero infinito di persone. Sbaglia anche il Papa quando dice quello che ha detto. Ci sto arrivando, guardi. Io ho scritto come un figlio. Allora vi chiedo: è giusto additare chi si batte per il nostro paese come se fossero mercanti del Tempio? E mi riferisco all'attacco di ieri. Noi italiani ci stiamo comportando meglio rispetto alla Francia, al Regno Unito, alla Spagna, alla Germania. E suggerisco che il Santo Padre faccia una telefonata. Sicuramente una telefonata tra Papa spesso. E la Merkel, Hollande, Zapatero e Cameron, probabilmente una telefonata del Papa è sorte molti più effetti rispetto a decine di tavoli istituzionali. Cioè dovrebbe risolverci lui il problema, insomma, dovrebbe risolvere il problema. Dovrebbe parlarne con chi fa peggio di noi, lei dice. Non può parlare come Galantino solo agli italiani, deve parlare alle coscienze anche degli altri paesi europei. Insomma, chiaramente noi abbiamo fatto tanto, forse troppo, di più non possiamo fare. E concludo facendo l'esempio di San Martino. Lei deve sapere che San Martino di Tours, abbiamo pochi secondi soldato, però sì. E vedendo un povero seminudo in una notte d'inverno, gli donò una parte del suo mantello perché si potreste coprire. Ma il mantello era uno e più di uno ignudo non potette vestire. Va bene, è molto preciso, non si grazie. Può aiutare tutti, è questo. Buona serata, e da lì nasce l'estate di San Martino. A dopo giornale radio. Si può fare l'attualità anche d'estate. Questa campagna del pomodoro scemerà e quindi il campo sarà meno frequentato di oggi, noi, perché questo l'ho preteso e lo pretenderò, noi abbiamo deciso di chiudere quel campo totalmente. Lo scandalo a cielo aperto però davanti agli occhi di tutti del campo, del ghetto di Rignano Garganico, il presidente della Puglia Emiliano, intervenuto ieri sera in un talk show proprio di questo. Noi siamo partiti da qua stasera con l'intervista a Ibrahim di Radio Ghetto. Buonasera, ben ritrovati cari ascoltatori, da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, buonasera a tutti. È stata una bellissima intervista a Ibrahim, sì. Che è anche un operatore della radio di Radio Ghetto all'interno del ghetto, che è formato da 2000, esatto, un numero incredibile, pensavo meno, invece sono 2500 persone non che vivono nelle baracche, non sono invisibili, però dice Emiliano dopo passata la stagione dei pomodori lo chiuderemo. 800 24 00 24, Di Pietro. Emiliano lo sa bene, galera per queste persone, perché non è che con una bella investigazione non si può scoprire. Scusi Di Pietro, si sa bene chi sono i caporali e soprattutto i mandanti, e in galera devono andare. È difficile vedere la differenza, come dire, morale tra chi guadagna o comunque incassa 35 euro al giorno per assistere i migranti e chi cerca di, chi arriva al 16% invocando le espulsioni e le ruspe sui campi rom. Quindi se quelli sono i mercanti nel tempio, come dire, anche voi avete la vostra bancarella. Guardi. Il duello tra il vice direttore del Fatto Quotidiano, Stefano Feltri, e Morelli, direttore di Radio Padania, sul tema, insomma, dell'immigrazione. C'è Morelli che annuncia anche il viaggio, più volte rimandato, della Lega, dove? In Nigeria, per andare alle radici dell'immigrazione e non so fare esattamente che cosa. Sentiamo. La Lega per esempio nei prossimi mesi farà una missione, lo stesso Matteo Salvini andrà in Nigeria. L'aveva già annunciato per... e l'ha cancellata, non ci crede più nessuno. Mi dispiace. L'aveva detto Feltri, che l'avrebbe fatto d'estate. Feltri sarà invitato. Tempo. Oh, Feltri, se vuoi venire con noi, sarai invitato. Ok. La questione degli stipendi dei dirigenti della CISL, sollevata da una lettera di un dirigente del sindacato di Verona che ha scritto al segretario generale Furlan dicendogli dimettiti perché questi super stipendi, superiori a quelli del Presidente della Repubblica Mattarella, per esempio 240.000 euro fissati per legge, sono intollerabili, scandola, e la risposta del segretario Furlan in ordine. Vai. A me risulta che la segretaria generale oggi da 5 o 6 anni ha un reddito utile per la pensione superiore ai 170.000 euro annui. C'è una cosa che mi amareggia moltissimo di tutta questa vicenda, è l'immagine che si dà. Si sono presi due o tre casi, peraltro stranamente qualcuno si è accorto oggi di questi casi e se ne è fatto un discorso come se fosse generalizzato. Intorno a noi, in mezzo a noi, in molti casi siamo noi a far promesse senza mantenerle mai, se non per calcolo. Il fine è solo l'utile e il mezzo ogni possibile. La posta in gioco è massima, l'imperativo è vincere e non far partecipare nessun altro. Nella logica del gioco la sola regola è essere scaltri, niente scrupoli o rispetto verso i propri simili, perché gli ultimi saranno gli ultimi se i primi sono irraggiungibili. Sono tanti, arroganti coi più deboli e zerbini coi potenti. Sono replicanti, sono tutti identici, guardali, stanno dietro a maschere e non li puoi distinguere, come lucertole s'arrampicano, e se poi perdono la coda la ricomprano, fanno quel che vogliono, si sappia in giro fanno, spendono, spandono e sono quel che hanno. E sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono meglio. Sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono meglio. Come le supposte. Ha da poco lanciato un progetto nuovo, multimediale, per, questo sarebbe l'intenzione, avvicinare i giovani all'arte tramite la musica. Lui è un musicista, la sua vicenda si intreccia anche con quella di Expo, per varie ragioni. Ecco, noi Frank High Energy, ciao! Ciao, ciao a tutti, buona serata! Buonasera! Ciao. Allora, partiamo dal progetto Artune, che parte da Cremona, nasce a Cremona e arriverà anche a Cremona con un appuntamento, credo, all'inizio di settembre. Di che si sì, tratta? Sì, il 5 di settembre. Come funziona, Frankie? È un'idea che è venuta a me, alla mia squadra di collaboratori di materie prime circolari, dopo aver fatto una chiacchiera con il sindaco di Cremona, Gianluca Galimberti, il quale, dopo avermi raccontato alcune iniziative che aveva in corso, sì, ha detto: ma perché non ti inventi una maniera per avvicinare magari i giovani ai musei, all'arte, magari attraverso la musica? E così è nato Artune, che di fatto è un progetto molto semplice e che già può essere sperimentato, vissuto, percorso andando sul sito www.artune.it. Abbiamo chiesto a 10 artisti italiani, sì, di guardare il quadro dell'Arcimboldo, dell'Ortolano dell'Arcimboldo, che il 5 di settembre per l'appunto tornerà al museo alla Ponzone di Cremona. Che è quello dal quale si è ispirato per la mascotte di Expo, giusto? Esattamente, infatti in questo momento è al Padiglione Italia, ma il 5 di settembre ritorna a casa, al Museo, esatto, di Cremona, e quindi si è pensato di fare una grande festa. Per preparare, per raccontare a chi non è mai stato a Cremona, magari non conosce il quadro, la particolarità, la peculiarità di quest'opera, e che poi il pretesto per avvicinare le persone a vedere le altre opere di cui Cremona è disseminata, sì, è stata richiedere a degli artisti di osservare quel quadro e farsi ispirare ognuno una playlist di 5 brani musicali, per associazione di idee, perché connessi a un aneddoto, perché c'è un riferimento didascalico, qualunque fosse il motivo, qualunque fosse la musica. Insomma, il quadro lascia parecchie possibilità di ispirazione, perché non so se gli ascoltatori l'hanno presente, tra l'altro si può vedere in due modi diversi, no? Esatto, cioè fondamentalmente è una bacinella che contiene all'interno degli ortaggi affatto nobili, tra l'altro, cipolle, funghi, cioè tutta roba che cresce sottoterra, sì, marroncina, come cioè, nello studio di Arcimboldo, che è quello sempre un po' di andare a scavare nelle cose così, diciamo, laterali. Esatto, e capovolgendo il quadro, invece c'è una faccia, una faccia che ha la bacinella per cappello, per elmo, ed è una faccia grassa, rubiconda, alcuni addirittura pensano fosse un ritratto di Priapo, e quindi anche, se vogliamo, ammiccante come dal punto di vista sessuale, sì, esattamente, cioè come estetica del ritratto, se vogliamo, comunque uno scherzo, un gioco. E questa secondo me è la maniera più funzionale, attraverso il gioco, di avvicinare le persone all'arte, ai musei, convincerla a superare fondamentalmente due grossi scogli che evidentemente ci sono, abbiamo un po' tutti. Cioè, il primo è quello più semplice, quello che normalmente viene dichiarato, no? Perché che palle al museo, cioè. Ma sì, no, non c'ho palle. Devo impegnare il cervello a capire qualcosa. Mamma mia, che stanze, quadri. Perché? Perché probabilmente c'è un'altra cosa, l'altro motivo che è più pesante e che non si fa sempre fatica ad ammettere. Il senso di inadeguatezza che si ha nei confronti dell'arte, per l'ignoranza che abbiamo ricevuto nella in eredità, così ci si sente impreparati e anche un po' inferiori. Sì, perché nel momento in cui mi dai un'audioguida in cui mi racconti che quello è un olio su tela in cui la pennellata materica, ciao, non è così. A materica mi hai già perso. A materica, ma si perde chiunque. Beh, te ti si perde veloce, Carlo, comunque. No, cioè su materico è veramente... Sì. Inaccostabile, no? È vero, ci vogliono altri linguaggi. Un pochettino come la Madonna Presaga, per chi è appassionato di arte del 400, del 500, la Madonna Presaga, cioè con quell'espressione un po' corrucciata dell'attesa, cioè che sì, ha il presagio della fine che farà suo figlio. E ste madonne, tutte presaghe ste madonne, cioè non si va da nessuna parte. Allora poniti davanti all'immagine, osservala, sii libero, sappi che se quella cosa che stai vedendo non ti piace, hai ragione, perché la bellezza dell'arte così, certo, è il fatto che ognuno dice la propria e ha ragionissima, punto. Se non ti piace non c'è niente di male, stai sereno. L'artista, una volta che ha fatto l'opera, succede certo, anche a me con le canzoni, una volta che l'ho resa pubblica è finita, non è più mia. Giustissimo. Smette di essere mia, è di tutti. Ognuno ci vede quel che vuole, no? Magari ci posso vedere qualcosa di nuovo anch'io, mi è successo. Ma però, scusa, ma l'idea, ti do del tu, sono Carlo Gabardini, ci conosciamo, è per questo che ciao, ti do del Carlo, tu. Ciao, certo, che bello sentirti. Ti ringrazio, ma volevo chiederti, cioè, l'idea è poi che uno, per esempio, anche se molto semplicemente, inizia a guardare il quadro tenendosi nelle cuffiette la playlist, per esempio, di un artista che ama molto, per esempio Frankie High Energy, e decide: io mi sento le canzoni che Frankie High Energy consiglia di ascoltare durante la visione, certo, di questo quadro. Tutte le canzoni, le musiche sono ospitate su Spotify, quindi sono accessibili, perfetto, in maniera libera. Quindi è già tutto su Spotify, si trova già e le ci playlist. Ci sono artisti come Fiorella Mannoia, Niccolò Fabi, Caparezza, Elio, Giuliano San Giorgi, Elio. Cioè abbiamo chiesto a un sacco di amici e adesso ce ne sarà ancora qualcuno che prima del 5 di settembre si aggiungerà. Senti, ma quindi insomma, Arcimboldo l'Ortolano si arriva a Expo, cioè si parte in qualche modo e si torna lì. Com'è andata questa vicenda? Insomma, hai fatto pace adesso? Sei andato nei padiglioni? Hai fatto un giro? Ma io ho attraversato in una occasione i padiglioni di Expo quando sono stato invitato a partecipare, sì, a un forum organizzato da Acra CCS, che è una ONG con la quale collaboro, e che insomma succedeva all'interno di Expo, e quindi sono entrato, ho fatto il decumano, credo. Sì, il vialone e il decumano. Mamma mia, lunghissimo. Quello lungo è il decumano. È veramente lunghissimo, lungo. È poco affollato. Purtroppo, cioè, c'era poca gente quel giorno lì. Perché queste cose qui io le guardo sempre. Sì. Il motivo per il quale ero stato arruolato. Sì, come testimonial, certo. Come testimonial, cioè un po' a mia insaputa, nel senso che ho firmato una liberatoria. Senza non dire così, che sennò poi scatta subito il paragone con Scaiola, quello della, sì, casa, no, del Colosseo. Lo so, purtroppo, però ragazzi, cioè nel momento in cui però hanno preso coscienza, non è che ho detto: ah no, allora no, come dire, in Sicilia si dice ma rifai Dio, no, mi tiro indietro. No, ho detto perfetto, vediamo se sarà effettivamente il laboratorio per poter portare, certo, via Campesigna, poter raccontare il sud del mondo. Un approccio comunque positivo. No, una porzione, sì, una quota. È normale che ci sia McDonald's, cioè lo so, per forza di cose ci sarà McDonald's, però è anche normale che ci sia una importante presenza, cioè direi azzardo un 10%, no? Molto diplomaticamente, un 10% di quella popò di roba dovrebbe servire come non una briciola messa lì come una foglia di fico ogni tanto, E questi motivi mi hanno fatto allontanare da questi e altri motivi. Senti, finisci di raccontarcela locali tra un attimo, però, perché io devo dare la borsa, se no poi mi vanno giù i mercati. No, i mercati adesso sono chiusi, però devo dare le informazioni sui mercati finanziari e poi finiamo con Frankie Energy e chiacchieriamo di Expo, Expo dei Popoli, perché adesso nel frattempo Frankie Energy è testimonial di Expo dei Popoli, una rete di associazioni che fiancheggia, critica ma non troppo, l'iniziativa. A dopo la borsa. Si può fare. L'attualità anche d'estate. Poi venne la crisi, sparirono i sorrisi, le frasi col vicino divennero scortesi, nervi troppo tesi, tasse tutti i mesi, i soldi peggio spesi, i soldi sempre attesi. Intanto tutti a testa bassa negli androni, le tasche coi bottoni, le case, i padroni, i brutti contro i buoni, i matti contro i pazzi, gli orazzi, i curiazzi, le liti, gli scazzi, tutti a campare in apnea, c'è sempre l'alta marea, pure il weekend all'Ikea e mors tua vita mia, il tablet per la scuola, i libri perché non funziona, il treno che ritarda tutti i giorni un'ora, il posto traballa, il posto crolla, tutti per strada e nessuno se l'accolla, tutti con la netta sensazione di essere soli, non c'è nessuno che ascolti nonostante ci si sgoli. Cerchiamo eccoci di... qua cari ascoltatori, di nuovo buonasera da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini in compagnia di Frankie Energy. Frankie, ciao ragazzi, eccoci qua. Allora, scusatemi, sono ancora affascinato dal fatto che sì, siccome la Cina ha svalutato di 2 punti lo yuan, la ditta di un calzaturificio italiano perda 5 punti in borsa. Cioè è un volo un po' pindarico, tu dici, però io ti assicuro che tutto quello che hai sentito è la pura verità. It's the globalization, baby. Esatto. E non puoi lamentartene. Senti, perché stavi raccontando invece di come, perché diciamo ingaggiato in qualche modo a tua insaputa come testimone di Expo, ti aspettavi comunque, sì va bene, i grandi sponsor, la Coca-Cola, McDonald's ci può stare, però tu dici almeno una parte di contenuti su chi, sui sud del mondo, sul sud del mondo impegnato in prima linea nel nutrire il pianeta eccetera eccetera, ci fossero questi contenuti, e invece fosse un po' più nutrita quantomeno la rappresentanza. Invece non, questa cosa non è accaduta, oltre a reclutamento selvaggio con in maniera poco chiara per i lavoratori, che questa è una cosa che ti è stata molto a cuore, che hai aperto proprio una polemica in quel momento lì, cioè sui volontari del grande evento. Ci sono spesso volontari che lavorano, eccetera. Perdonami, però... l'attenzione dei media si è collocata sulla parte nella quale parlavo dei volontari. Sì. Quella del sud del mondo, perdonami, è sparita. Non se l'è cacata nessuno, non so come dire. È vero. Cioè, perché anche lì vedi, cioè, io dico il 10% di un po' tutto, no? Cioè, quando mangi il 10% della pizza, arriva dal sud del mondo comunque. No, e tra l'altro direi che invece anche la parte invece sui lavoratori dalla quale ce ne siamo occupati anche noi è stato anche un po' travisato quello che dicevi, perché tu mi sembra di aver capito non è che stessi dicendo è vietato avere volontari, tutti noi abbiamo organizzato eventi con volontari, cioè, non voglio replicare le cose, nessuna porzione l'uscita di Lorenzo, però insomma non diciamo fandonie, il volontariato ha un nervo fondamentale di una democrazia, mi viene da dire, certo. Perché la democrazia di per sé è un atto di volontariato, di autodisciplina e di autoregolamentazione. E il volontariato in eventi esiste, è importante che però sia ben codificato la tipologia di scambio. È verissimo. Perché aiutare a cuocere le salsicce alla festa del paese non è la stessa cosa che dopo aver studiato anni cinese e coreano, essere messo per un mese all'angolo di una strada sotto il sole a rispondere agli eventuali cinesi e coreani. Sì, in un evento dove ci sono i grandissimi sponsor. Esatto, volontariato, no? Cioè, chiaro, lo potrebbe fare uno che al liceo fa anche cinese e lo usa per far pratica, però mi viene da dire, poveri cinesi, intendo, aiutamoli almeno con qualcuno. Okay? Tirare fuori un po' di quei quattrini che tanto hanno animato e mosso questa macchina e la stanno muovendo per pagare le giuste prebende. Senti, e questa esperienza invece con la rete Expo dei Popoli, cioè questo modo di stare dentro Expo però con un punto di vista critico, no? Quale messaggio ha anche in questo caso cercato di trasmettere? Un po' quello che ci stavi raccontando adesso. No, il concetto di Expo dei Popoli è di utilizzare la cosciente del fatto che all'interno di Expo esiste una sorta di fortino mediatico per su quei temi, è importante assediarlo e poterci entrare e poter far sentire la propria voce in quei microfoni che però stanno fisicamente lì dentro, e quindi chiudersi al di fuori di quella di quell'iniziativa, di quella, chiamiamola istituzione se sì. vogliamo, rischia di essere un danno, di non permettere un'occasione che effetti, esatto, effetti che vengono sortiti, effetti di più ampio respiro, di maggiore utilità soprattutto per i destinatari finali. Cioè bisogna chiedere, caro Abeu, agricoltore dell'entroterra dello Stato di Bahia, secondo te è giusto che noi si vada lì dentro a dire queste robe, o siccome ci sono i cattivoni che fanno la pubblicità e che depredano il nostro territorio, non bisogna proprio andarci a parlare con quelli che ascoltano anche loro? Cioè, penso che sia utile ragionare su cosa, è più utile per il destinatario finale. Finale. Giusto. Scusa, ti faccio un'ultima domanda. Tornando ad Artune, siccome mi sembra un progetto bellissimo, che è questo progetto di cui Frankie High Energy l'ha inventato e si occupa, ovvero di accoppiare, per avvicinare il mondo dell'arte ai giovani, di accoppiare delle opere d'arte a delle canzoni. Mi chiedevo, oltre all'ortolano dell'Arcimboldo, lo farete su altri quadri? Ma il Artune è un progetto che è nato come... con l'idea di poter essere sfruttato da istituzioni museali, da gallerie, in occasione di mostre, ma anche per i libri. Quindi è un progetto aperto che poi potrebbe essere accolto da altre istituzioni. Già abbiamo avuto delle richieste che chiaramente non posso anticipare, perché il Artium tra l'altro si basa anche sulla novità, sul fatto di far saltare fuori l'informazione e la musica e le immagini nel momento in cui uno poi ha la possibilità di prendere un treno e andarsela a vedere, magari certo. con un amico, perché il divertente, diciamo, di Artune è esattamente il fatto che si permette alle persone di comunicare in maniera non verbale, e quindi si parla direttamente al substrato del proprio io. Al subconscio, al quasi. Al subconscio, all'inconscio. Certo. Mi state facendo paura adesso con questo subconscio. Beh, ma fatto anche sui libri, bellissimo. Adesso ti chiederò ovviamente poi in privato 5 canzoni per il mio libro, così poi le metterò su Twitter. Ah, volentieri, senz'altro, caro. Chissà, poi magari può diventare una cosa virale dove ognuno suggerisce le sue musiche da associare a un quadro o quant'altro. Esatto. Bella questa iniziativa. L'idea è quella di poter essere la prima audioguida emozionale che è stata mai realizzata. Wow, questo è bello. Audioguida emozionale mi piace. Molto bello. Appuntamento allora il 5 settembre, ma già adesso su Spotify con Artune e anche sul sito. Grazie, Frankie. Grazie sì, mille. Una piccola cosa volevo aggiungere: che il 5 di settembre al museo alla Ponzone ci sarà una festa concerto con musica nuda, Ferruccio Spinetti e Pietra Magoni, e con il progetto Consorto, che è una cosa stranissima, fatta da Gianluigi Carlone della banda Osiris, che suona dei vegetali come un synth. Non aggiungo altro. Beh, il resto libero il 5 settembre. Bellissimo. Il progetto più arcimboldesco che si potesse bello comunicare. Grazie. Grazie mille, Franky. Grazie ciao. A voi, ragazzi. A presto. Ciao. Ciao. Ciao, buona serata. Cerchiamo di restare qui. E allora, cari ascoltatori, eccoci qua, 800 24 00 24, non trascuriamo gli interventi degli ascoltatori, mi raccomando. Andiamo subito con Luciano, che ci chiama da Verona. Luciano, buonasera. Buonasera. Buonasera. Prego. Tocca a lei, Luciano, se vuole, se no... Io intervenivo ancora per l'argomento che si trattava prima, quello dell'immigrazione. Sì, perfetto, non c'è nessun problema. Sì, sì, abbiamo fatto due chiacchiere con Frankie High Energy parlando d'altro, di Expo e di sì, arte, io musica, sono un agricoltore, sì. Prima ascoltavo la radio, adesso sono tornato nel mio campo. Lei sta lavorando adesso? Adesso? Sì, sono tornato nel frutteto, sì. Ma quest'ora? Infatti, anch'io pensavo, perché adesso è più fresco forse rispetto al pomeriggio. Anche per quello, ma per tanti altri motivi. Ce ne spieghi? La cosa che volevo dire è questa, sì. Noi agricoltori sentiamo schiavi al pari degli extracomunitari in questo momento. Perché? Mi spiego, A Verona le pesche, io produco pesche e altra frutta, vengono vendute dai 20 ai 30 centesimi. Produrre un chilo, scusi, di 20, 30 centesimi, costa 40 centesimi. Scusi, 20 centesimi stiamo parlando al chilo? Al chilo, certo. Cioè lei le pesche che vengono sui suoi alberi le vende all'ingrosso a 20 centesimi al chilo? A 20 centesimi. Però lei produrle, però lei produrle costa 40. Certo. E soprattutto a me comprare costa come minimo 5,99 euro, non so, le pesche e noci al mercato comunale. È la solita questione dei prezzi che non vanno, della remunerazione per gli agricoltori che non va. È un grosso problema. Bravo. Questo qui. Adesso io vorrei esprimere un concetto, mi lasci, sì, se mi lasci un minuto. Io sono convinto, premessa, siamo tutti uomini fatti di carne, sangue e passione, noi gli extracomunitari tutti. Sì. Ecco, il fenomeno dell'immigrazione in quel modo disordinato, in quel modo lì, secondo me rientra tra quei fenomeni come lo spaccio della droga, che succedono perché a qualcuno interessa, non a me, a chi produce, a chi riesce a guidare, a tirare le fila, molto più in alto di noi, molto più in alto dell'Italia, del nostro paese addirittura. Chi è che tira le fila, Luciano? Mi lascio esprimere un concetto. Sì. Io ho 53 anni, quando io ero piccolo guardavo in televisione le notizie, c'erano tre cose che mi turbavano: era il terrorismo, era i rapimenti delle persone, non perché io la mia famiglia fosse ricca, ma da bambino era una cosa che preoccupava. E poi la terza cosa? Spaccio della droga. Lo spaccio della droga. E quindi? Ha perso il terrorismo è durato fino a che è stato funzionale un sistema. Ok. I rapimenti di persone andavano a danneggiare le persone ricche. E io mi chiedevo, ma come fanno a controllare i rapimenti di persone? Sì, ok, ma le pesche in tutto questo cosa c'entrano? Per chiudere, Luciano. Sì. Che sono uomini come noi, vengono mandati qua, vengono portati, vengono lasciati che si rovinino la vita a venire qua in Italia in quel modo lì. Sì, perché a qualcuno perché conviene. A qualcuno conviene. Vabbè, Luciano, ci voleva tantissimo per dirlo. Comunque, grazie soprattutto per averci chiamato dal campo, dove produce che qualità di pesche, si può dire? Adesso sono pesche medie, adesso c'è la Venus, sono nettarine. Le nettarine. Noi agricoltori abbiamo una grande ma pesca passione. O noce pesca? Le sue sono pesca noce. Io preferisco la pesca quella pelosa. Ah, io no, io sono per le pesche noce tutta la vita. Luciano, in bocca al lupo. In bocca al lupo. Grazie, buona serata. Grazie mille, buon lavoro. No, è lavoraccio quello lì, degli agricoltori. Anche alle 8:10 di sera. 20 centesimi al chilo, quanti chili, quanti quintali, tonnellate devi fare per portare a casa uno stipendio mediamente ragionevole? Troppe. Claudio da Lucca, buonasera. Buonasera, salve. Buonasera. Senta, io di media lavoro tutti i giorni nell'ambito delle pasticcerie, panetterie, ristorazioni, insomma, tutto quello che è alimentare. Sì. Il riscontro che trovo è che tutti gli extracomunitari che vengono, o la maggior parte diciamo, che vengono impiegati, è perché vengono, prima cosa, sottopagati a pari di un italiano, assicurati a orari veramente assurdi, cioè non pensiamo all'assicurazione alle 6:40, 7 ore a seconda del contratto, ma molto di meno. E loro riescono a campare con stipendi molto più bassi di noi, anche grazie a tanti aiuti. Io ho un bimbo di quindi 16 giorni, la mia compagna a carico, pago l'affitto, no? Mi sono informato per avere qualche tra virgolette aiuto, penso che sono in pari con tasse, tutto quello che c'è da pagare pago tutto, spazzatura, quello che vi viene in mente dietro l'ho pagato. A me non mi viene dato nulla. Ora io dico, io quando trovo una signora marocchina, con tutto rispetto, bisogna salvare tutti, in questo mondo nessuno deve morire, con 3 figlioli, lei non lavora, stanno in casa, il marito lavora e basta, magari fuma anche. Ma di cosa sta parlando? Ma il punto qual è? Lei dice che lei dovrebbe avere degli aiuti dallo Stato? Come fanno a campare con uno stipendio inferiore a un italiano, a campare una famiglia con 3-4 figli? invece un italiano medio non riesce. Come fanno? Forse perché vivono in delle baracche, per esempio, nelle baracche. No, ma qualcuno vive in appartamenti, magari si toccherebbe a qualche italiano che magari è divorziato, o una signora, magari, o una donna divorziata con tre figli, gli tocca stare dalla madre, perché l'alloggio è stato dato magari a una famiglia che magari porta 5 voti, non so, a qualcuno. Bene, ora lasciamo. Ma come 5 voti? Se stiamo parlando di extracomunitari che non hanno neanche permesso di soggiorno, se sono non votano. Che sono in Italia possono avere anche il diritto al voto, dopo che sono diventati cittadini italiani, ma magari sono venuti qui come immigrati. Però siccome stiamo parlando degli immigrati che arrivano oggi con i barconi, è diverso. I semplici che arrivano, ora li chiamano anche a sbarcare di qua, addirittura, abbiate pazienza, abbiamo visto le foto di un nuovo mondo, forse dall'altra parte della galassia, e non riusciamo a vedere una barca che parte. Io non vi dico che deve essere affondata, ma guardi, vederla, ma però è quella la questione, vederla, ovvio che la vediamo, non è una questione di non vederla, è una questione che cosa portiamola di dove è venuta, è stato semplice. Il problema è se lì da dove viene questi sono perseguitati, se sono perseguitati sembra corretto ridarglieli in mano. Per quanto mi riguarda non è così semplice rimandarli da dove sono venuti, perché credo che sia un'impresa piuttosto complicata, per usare un eufemismo. Grazie comunque anche a lei, buona serata. Toccare un altro tema che ci sta un po' a cuore, che è quello della gestione dei rifiuti, perché oggi Fatto Quotidiano in prima pagina titola "Più inceneritori per tutti". È la notizia che i decreti attuativi dello Sblocca Italia sbloccano l'autorizzazione alla nascita di 12 nuovi termovalorizzatori in Italia. Ma noi ci siamo che detto, è il nome nobile dell'inceneritore. Esatto, ma non si era detto che basta così? Basta inceneritori, che l'Europa aveva messo fuori gioco il fatto di bruciare i rifiuti, che invece i rifiuti sono una miniera d'oro, bisogna recuperarli, differenziare, eccetera, eccetera, eccetera. Allora ci siamo corsi a chiedere un aiuto a Enzo Favoino della Scuola Agraria del Parco di Monza. Buonasera. Buonasera Gabardini, buonasera Maurizi. Buonasera. Grazie. Come scusa? Si lavora ad agosto. Ma sì, è giusto. Ti fanno fare gli straordinari perché ti approvano così, ti fanno uscire un decreto attuativo dello Sblocca Italia e così 12 nuovi inceneritori. Perché è una cattiva notizia? Secondo noi vi seguiamo un po' come una Bibbia, perché zero rifiuti, tu Ercolini siete un po' la Bibbia per quanto ci riguarda su queste cose. Perché dobbiamo preoccuparci di questa cosa? Allora, anzitutto il decreto non è che sblocca solamente le autorizzazioni che erano già in itinere, prevede l'insediamento di 12 nuovi inceneritori laddove non erano previsti. La cosa penso che metterà in serio imbarazzo intere regioni, interi territori che stavano programmando in altra direzione. Ecco, tra l'altro ci sono le Marche, volevo citare alcune regioni perché poi magari chi ci ascolta si sente più interessato se facciamo i nomi. Non so, c'è Firenze che sta discutendo. Sì, hanno appena approvato. C'è già la discussione su un inceneritore in corso. Negli ultimi giorni c'è stato un evento importante perché c'è stata conferenza di servizi, ma la discussione va avanti. C'è quello delle Marche, c'è Terni, sì. Oltre a quell'inceneritore ne prevede altri due che ancora non si sa dove bisognerà localizzare. C'è il Veneto che ha programmato nel suo piano regionale di gestione dei rifiuti. Il Veneto, ne abbiamo già parlato l'altra volta quando mi connessi, sì, è la regione più avanzata d'Europa assieme alle Fiandre in termini di raccolta differenziata, e ha programmato un obiettivo perfettamente conseguibile, il 76% di raccolta differenziata, nessuna nuova capacità di incenerimento. Invece il decreto impone, assumendo che si arrivi al 65%, che il Veneto ha quasi già superato, sì, impone di pianificare un altro inceneritore. Cioè, anche in al Veneto? Cioè, anche al Veneto lo impone? Sì, anche al Veneto. Questa cioè, è una follia. Mi fai sottolineare questa cosa. Cioè, noi parliamo di una regione, il Veneto, che è all'avanguardia in Europa per la gestione dei rifiuti, sta superando il 65%, la famosa soglia, si è posto come obiettivo ad arrivare al 76%, a questa regione il governo dice costruite un termovalorizzatore, che sarebbe inutile. Sostanzialmente sì, per un semplice motivo, che viene applicato un criterio di calcolo standardizzato e fallace, Poi ovviamente io posso dare il mio retropensiero sul perché viene applicato questo criterio sì, di calcolo. Sì, ma infatti glielo chiederemo. Questo criterio di calcolo assume il conseguimento del 65%, che guarda caso è l'obiettivo strettamente previsto dalla legge nazionale anche per raggiungere gli obiettivi europei, ma non è che quando uno arriva al 65% di raccolta differenziata si ferma di botto come se fosse sull'orlo del burrone. Ci va avanti. Perché quella è la porta della virtù e noi sappiamo che separare di più genera risparmi. La porta della virtù è bellissima come immagine. È vero, è meglio preparata. No, ma soprattutto, sì. Soprattutto è che giustamente ci avete insegnato, sicuramente ad Alessio e me ce l'avete molto insegnato, il fatto che i termovalorizzatori non sono una soluzione, era quasi un'idea, è quasi un'idea vecchia, è un'idea che, se non sbaglio, tipo in Danimarca hanno deciso, ma no, non vanno più bene, il fatto di bruciare rifiuti per creare energia è un po' una follia e non si capisce come mai improvvisamente invece il governo italiano decide che farne altre 12 sia una buona idea, quindi mi interessa anche il retropensiero. Ma è la stessa cosa di cui chiederemo conto noi al governo italiano, sia in ambito mediatico, e lo sto cominciando a fare tramite le vostre frequenze, sia in ambito istituzionale tramite le regioni e le province che hanno programmato in altra direzione. Evidentemente tutti gli artifici di calcolo sono stati adottati in maniera che il calcolo complessivo generasse la capacità aggiuntiva di incenerimento più alta possibile. Ma tra l'altro c'è per quale motivo? Per quale motivo bisognerebbe chiederlo al ministro dell'ambiente Galletti? Tu hai detto che rischia di passare. Lui ha una cultura diversa dalla nostra. Tu hai detto che rischia di passare alla storia come il peggior ministro dell'ambiente. Ahimè sì, io sono solito usare il linguaggio più istituzionale, ma questo l'ho chiamato una porcata. Peraltro il termine era già stato sdoganato da un altro ministro della Repubblica. Sì, voglio ricordare per altre cose, voglio ricordare però anche le credenziali di chi state ascoltando, perché Enzo Favorino insieme a Rossano Ercolino, premio Nobel per l'ambiente 2013, cioè ricevuto dalle mani di Barack Obama per il suo impegno contro proprio gli inceneritori, per il recupero dei rifiuti, la raccolta differenziata, eccetera eccetera. E infatti noi lo sentiamo tutte le settimane. Lo sentiamo spessissimo. Enzo Favorino del Parco Agrario di Monza, anche lui dentro la rete Zero Waste in Italia, un territorio, il vostro, che ha fatto scuola. Noi ci eravamo sentiti l'ultima volta perché c'era una delegazione, se non ricordo, americana o qualcosa, che era venuta a studiare New York. Come voi gestite i rifiuti, quindi non è che sta parlando uno così. No, per voi che siete appassionati di geografia, sono appena tornato da Los Angeles, dove per 4 giorni siamo stati gli ospiti d'onore della conferenza nazionale Rifiuti Zero degli Stati Uniti. I modelli italiani sono quelli meglio visti, meglio studiati, perché sono quelli che hanno determinato maggiore efficientamento operativo. Ecco, a noi piace ricordare questa cosa. Però voglio rompere un attimo questo idillio e ricordare una cosa, perché uno dei motivi che potrebbe spingere questa cosa degli inceneritori, e te lo chiedo, è questo: non è che per esempio regioni come la Campania, che esportano rifiuti perché non riescono a fare raccolta differenziata quanto dovrebbero, forse Napoli da sola contribuisce a questa esportazione di rifiuti, ecco, per questo tipo di regioni che sono indietro, una soluzione quale potrebbe essere l'inceneritore? Di sicuro c'è un problema di sottocapacità di trattamento in alcune regioni, però attenzione, stiamo parlando di capacità di trattamento e non di capacità di incenerimento. Nelle direttive europee e nelle strategie, tanto più quelle che sono in discussione adesso e che con ogni probabilità daranno luogo a obiettivi incrementali di raccolta differenziata e recupero materia, perché l'Europa si è accorta che siamo poveri di materie prime e i cinesi, i brasiliani, gli argentini non ci vogliono più dare le loro. Abbiamo detto dobbiamo riciclare il più possibile. Fatto sta che le strategie europee parlano di obbligo di pretrattamento di tutto quello che deve andare in discarica, ma non di obbligo di incenerimento. Il pretrattamento può essere fatto con altri sistemi più veloci da realizzare, più economici e più flessibili, cioè che possono accompagnare meglio la crescita delle raccolte differenziate. Siccome voi avete detto chi è Enzo Favorino e quant'altro, la situazione della Campania la conosco bene, perché certo, noi nei nostri ruoli di supporto che esercitiamo spessissimo alle istituzioni europee abbiamo lavorato con e per la Commissione europea proprio sulla situazione campana e avevamo individuato anche delle strategie alternative per aggredire meglio e prima il problema di tutto il pregresso. Poi, se posso dare una notazione di sintesi, in Campania sì, più ancora che degli impianti è mancata nel passato la grossa credibilità delle istituzioni e dei programmi che proponevano. Sì, sì, no, tutto quello che vuoi, impostati. Però in effetti se lì c'è ancora un problema aperto, certamente bisogna trovare un modo di risolverlo, anche se ho capito che gli inceneritori non sono un modo. Però la Campania, attenzione, perché la Campania sì. non è la Cenerentola, la Campania ha superato la Toscana come tasso di raccolta differenziata. Questo significa che sistemi porta a porta, che sono le cose di cui in genere piacevolmente noi discutiamo sulle vostre frequenze, sono in grado di generare gli stessi risultati al nord come al centro come al sud, a Stoccolma come a Timbuktu. Quando partono queste cose in Sicilia come in Campania si fa l'80%. Però, allora ci si domanda, se lo fanno alcuni comuni, perché non lo possono fare i comuni lì vicino? Però una cosa è vera, che gli inceneritori sono quasi tutti al centro-nord, al nord soprattutto forse, no? E che quindi sicuramente si potrebbe immaginare che il nord non ne ha bisogno. Il Veneto, per esempio, abbiamo del nord dell'Italia o dell'Europa? Dell'Italia. Un nord europeo, però le due cose combaciano bene, sia nel nord dell'Italia, in particolare in Emilia-Romagna e in Lombardia, che nel nord dell'Europa, in particolare Svezia, Norvegia e Danimarca, e anche l'Olanda, c'è un problema terribile che sta affliggendo molte comunità locali, cioè la sovracapacità da incenerimento. In Lombardia, non a caso, lo schema di decreto certifica una sovracapacità di 550.000 tonnellate all'anno. Cioè che possiamo incenerire di più di quello che inceneriamo. Esattamente, lo stesso decreto che adesso nella seconda sua parte attuativa prevede 12 nuovi inceneritori, nella sua prima parte attuativa prevedeva di riempire gli inceneritori del nord con rifiuto che provenisse da altre, parti. Perfetto. Con ciò stesso mettendo a rischio le determinazioni all'unanimità del Consiglio regionale della Lombardia, che aveva detto: siccome abbiamo troppi inceneritori, facciamo come stanno facendo i danesi, cioè tabelliamo una strategia di uscita dall'incenerimento. Perfetto. Delibera sul decommissioning, spegnimento progressivo degli inceneritori esistenti. E certo, lo schema complessivo del decreto Sblocca Italia non tiene conto di questa realtà e prevede di riempire come un nuovo gli inceneritori esistenti e di costruirne di nuovi. Ci dobbiamo fermare un secondo per una brevissima pausa, Enzo Favorino, se poi resti con noi 30 secondi per ricordarci quali sono gli obiettivi europei su tutta questa questione qua, così ci chiariamo un attimo. Pausa. A Spunti di Vista ci occupiamo dei mille aspetti dell'attualità, quelli che incidono su come viviamo, sulla qualità della vita, i confronti e i modelli con gli altri paesi. Sono Irene Zerbini e vi aspetto con Spunti di Vista tutti i giorni dalle 7 alle 10 qui su Radio 24. Si può fare l'attualità anche d'estate. E allora, eccoci qua cari ascoltatori, tra poco riprendiamo con i vostri interventi all'800 24 00 24. Chissà che non vogliate anche commentare questa questione qua degli inceneritori, che è anche un po' tecnica, era più che altro da ascoltare, però ci sono città e regioni, territori interessate da questa questione, e quando si va sul locale poi un po' di interesse si accende. Enzo Favorino, per chiudere gli obiettivi, perché tutto quello che abbiamo detto, noi abbiamo, diciamo così, all'orizzonte davanti a noi degli obiettivi, no? Che sono proprio quelli europei posti per fare allo che cosa? Allo stato attuale l'obiettivo è il 50% di recupero materia al 2020, che corrisponde all'obiettivo nazionale di raccolta differenziata del 65%, perché il recupero materia si calcola al netto degli scarti dei processi di riciclaggio e compostaggio. Okay. Il decreto Sblocca Italia assume quell'obiettivo, ma non tiene conto della discussione che sta andando avanti e che aveva già dato luogo ad una proposta ufficiale da parte della Commissione europea sul pacchetto economia circolare, che prevedeva di aumentare gli obiettivi di recupero materia al 70%, cioè 80% di raccolta. Cioè diventare ancora più bravi di quegli obiettivi, certo, lì, perché no? Perché dobbiamo liberarci dalla subitanza alle materie prime cinesi, brasiliane, eccetera. Cioè prima ancora per motivi economici e geostrategici, più ancora che ambientali. Ma le cose vanno ormai di pari passo. Ora, la questione è che se io voglio arrivare al 70% di recupero materia, dovrò fare l'80% di raccolta differenziata. Poi per i miei amici Gabardini e Maurizi che si preoccupano, accidenti, ma dobbiamo farlo entro domani? No, entro il 2030. Il problema è che però al 2030 io avrò un rifiuto residuo che sarà solo più il 20% più gli scarti dei processi di riciclaggio e compostaggio, mentre il decreto Sblocca Italia prevede il 35% più gli scarti dei processi di riciclaggio e compostaggio, cioè sostanzialmente il doppio di necessità di incenerimento rispetto ad adesso. Dove arriva il problema? Che quando si fa infrastrutturazione, io posso usare l'esempio di un'autostrada. L'autostrada si ripaga tramite l'applicazione del pedaggio autostradale. Tu passi di là se vuoi passare, altrimenti prendi la statale se vuoi risparmiare. Nel caso dei rifiuti, ahimè, esiste una cosa che si chiama contratto vuoto per pieno, che è l'unica cosa che è in grado di garantire il ritorno degli investimenti a favore di infrastrutturazione pesante come gli inceneritori. Bisogna riempirli. Sono contratti. Esatto, bisogna riempirli per 20 o 30 anni e questa cosa è evidentemente in contraddizione con quello che ci chiede l'Europa. L'obiettivo di invece è su questo fare che noi stiamo segnalando una lettura un po' più attenta, va un bene, po' più riflessiva, e siamo sicuri che le regioni sapranno dirlo al ministro. Studieremo un po' anche di percentuali. Giusto. Intanto grazie mille per essere stato con noi, per averci. Grazie a voi e buon lavoro ad agosto. Grazie mille e buona serata. È un colpo basso questo su buon lavoro ad agosto di Enzo Favoi, non lo so. Beh, no, vabbè, lavora anche lui, quindi ci stiamo. Ci stiamo dentro. Vabbè, insomma, la questione, ripeto, è un po' tecnica, andatevela a cercare, però è interessante il punto di vista di persone come lui e come Rossano Ercolini, che, ripeto, siamo alla schizofrenia. Questi ricevono premi per il loro operato proprio nella ricerca di arrivare a rifiuti zero, nella lotta a nella questione dei rifiuti, eccetera eccetera. Poi però giriamo la testa dall'altra parte e scopriamo che il governo, le istituzioni vanno dall'altra parte. Obbliga a mettere i termovalorizzatori, perché soprattutto è l'obbligo, è la questione dell'imposizione che non capisco. Nel senso che uno può dare la possibilità, se un comune decide che quello è il modo migliore, ma siccome tutti i comuni stanno decidendo che il modo migliore magari qualcuno è quello... ci vuole, forse al centro-sud ci vogliono, perché ce ne sono pochi, ce ne sono 15 al sud, 15 al centro, 52 al nord, e il Veneto, che viaggia a livelli di raccolta altissima, perché dovrebbe costruire un nuovo inceneritore? Questo è una domanda che così resta. Ce la portiamo avanti fino a che non risentiremo il ministro, speriamo di sentire Galletti, per esempio. Allora, ascoltatori, andiamo con Mario che ci chiama da Bologna. Buonasera Mario. Galleria, no, allora aspetti Mario, resti lì che l'abbiamo beccato proprio mentre resti lì, esca dalla galleria, esca dalla galleria. Facciamo invece Carla da Milano. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Eccola qua Carla, prego. Allora, ci dica. Io volevo intervenire, non sento la trasmissione da un po', ma riguardo ancora i lavoratori extracomunitari che raccolgono i pomodori. Perfetto, volevo portare un po' la mia testimonianza. Io ho 55 anni, ho raccolto i pomodori quando ero ragazza, più o meno al liceo, all'università. Sì. Vengo da un paese nel Piacentino, fra Piacenza e Cremona, dove c'era molta, c'è tuttora molta produzione di pomodoro, e adesso è raccolto meccanicamente, ma una volta si raccoglieva, non esistevano ancora queste macchine, si raccoglieva manualmente. Quindi li raccoglieva, ecco, dalle sue parti, nella sua zona? Sì, sì, sì, sì, al suo paese. Perfetto. Adesso è vero che sono solo extracomunitari, una volta venivano raccolti da, c'erano le squadre di lavoratori che erano composte da raccoglitori esperti, in genere donne. E questo va ricordato, perché ce l'hanno anche scritto via SMS, che sì, generalmente la raccolta di pomodori era affidata alle donne. Assolutamente sì, come la raccolta anche delle cipolle, dell'aglio, degli ortaggi in generale, no? Perché era un lavoro faticoso, molto faticoso, ma non richiedeva una forza particolare, se non nel sollevamento del secchio e nello svuotamento del secchio nel cassone. Quante volte l'hai fatto, Carla, questa cosa? Tutte le estati, per molte estati, vuol dire buona parte delle estati del liceo. Ma per pagarti poi le vacanze, queste cose qua? Per pagarsi, per avere un po' di soldi in tasca. Un po' di certo, soldi in tasca, certo. Ecco, quello che volevo dire è che è vero che oggigiorno ci sono queste persone, poi dirò la mia opinione su questi ghetti, che sono veramente, è anche un po' ridicolo parlarne, se ci sono vuol dire che tutti chiudono gli occhi, sì, perché ci sono tutte le autorità, tutte le norme che riguardano i dormitori, i servizi di igiene, e tutto viene bypassato, viene saltato. Sì. Quindi è evidente che c'è una connivenza delle autorità, quindi sì, non è ridicolo parlarne. È ridicolo che ci sia, cioè è ridicolo parlare se c'è o no la connivenza. Sì, però una cosa, Carla, scusa, visto che tu l'hai fatto, quella cosa che diceva l'ascoltatore sul fatto della concorrenza al ribasso sul prezzo, no? È vero, volevo proprio arrivare a questo. Ecco. È proprio vero. Tu quanto guadagnavi per fare questa cosa? Allora, io guadagnavo, era in lire, io ho 55 anni, però diciamo che ho il ricordo, gli ultimi anni che facevo questo lavoro, venivo pagata tipo 5.000, 7.000, 8.000 lire, Allora. Quindi di più di quello che danno adesso a questi a queste persone d'origine africana che prendono €20 al giorno. I primi anni non ricordo più, per la verità, cioè. Io ricordo gli ultimi salari. E, le donne, cioè le caposquadra, ovviamente prendevano di più. Però adesso la domanda c'è stato un peggioramento che immagino dove vuole arrivare lei. La questione è: sono gli italiani che hanno smesso di volerlo fare e quindi le aziende si sono dovute rivolgere a un altro tipo di manodopera e hanno anche deciso di sfruttarla pagandola meno, o viceversa? Secondo me non è così, cioè i ragazzi sarebbero, penso, contenti di farlo. Certo che se va là uno che accetta, uno o una, insomma, delle persone che accettano €1-20 al giorno, forse un ragazzo dice mi rivolgo a un altro lavoretto, vado a fare il bambino, vado a lavorare in spiaggia, ma però credo che sia una amara verità. Ma non pensa però che in realtà ci sono, nel senso che se ci vanno in due o tre studenti questo non risolve il problema della raccolta? Non pensa che ci siano anche molto meno studenti di forse quelli che c'erano alla sua epoca che decidono di fare i raccoglitori di pomodori e quindi ovviamente un'azienda si deve strutturare in un altro modo? Ma no, ma io non penso, per la verità. Io penso che ci siano tanti studenti, ci sono forse più studenti adesso che ai tempi miei, perché andavano meno gente all'università allora di adesso, o studiava. Quindi io penso che ci sia anche una manovalanza diciamo locale, italiana, disponibile, locale, in tutti i posti è così. Solo che da un lato è vero che gli studenti, i ragazzi, sono un po' più abituati a una bella vita. È questa. In parte, ci sono tante componenti, non è mai la verità una e assoluta. No, ma verissimo. Brava, quindi sicuramente c'è tutte una due le cose, tutte ragazzi due le cose. Che sono abituati a essere più comodini, tra virgolette, anche dai genitori. Io, mia madre mi ci mandava a lavorare. Certo. Cioè, se tu vuoi soldi, ci vai. E poi l'offerta, e poi come si dice, la tentazione per chi... In un mercato di offerta e di richiesta c'era questa offerta, io mi ero resa come altre disponibile e si faceva questo lavoro. Era faticosissimo perché la terra è bassa, bisogna stare sotto al sole ore e ore. Il problema credo, grazie Carla per questo bel racconto, è che siamo arrivati a un punto un po' grosso, perché se hai sentito il racconto di Ibrahim, 25 euro di cui 5 al caporale più il panino che ti devi pagare, 12 ore a lavorare sotto il sole, ci sono stati 3 morti nelle ultime settimane, siamo arrivati a un punto dove qualcuno deve fare qualcosa, perché questa legge della domanda e dell'offerta, che pure si muove, come dire, e ci può anche stare, però adesso stiamo sfiorando delle cose incredibili per qualche motivo. Abbiamo i titoli della 7, vai. Atene ha raggiunto un primo accordo tecnico con i creditori internazionali. Venerdì la riunione dell'Eurogruppo per l'accordo politico, mentre sono in corso contatti tra Tsipras e gli altri leader europei. L'intesa darebbe il via al terzo pacchetto d'aiuti alla Grecia per un valore di almeno 86 miliardi di euro. E c'è alta tensione sull'isola greca di Kos, dove si trovano migliaia di migranti. Durante le procedure di registrazione scoppia la guerriglia tra polizia e profughi, accalcati per ore in fila sotto il sole. Gli agenti hanno usato la forza. Il sindaco chiede aiuto al governo e avverte: la situazione sta sfuggendo di mano e se non verranno presi i rimedi scorrerà il sangue. Da continua a far discutere proprio il tema dei migranti, continua a far discutere. Il sottosegretario alla presidenza Lotti sottolinea che l'Italia è un paese accogliente e fa bene ad esserlo. E mentre prosegue la polemica tra Lega e Vaticano, Beppe Grillo sconfessa quanti nel Movimento 5 Stelle non condividono la linea dura sugli arrivi. Sparatoria a Brescia, uccisi due coniugi titolari di una pizzeria. I killer a bordo di uno scooter avrebbero agito a colpo sicuro. L'ipotesi degli inquirenti è quella del regolamento dei conti. Secondo alcuni testimoni, l'uomo in passato avrebbe più volte segnalato episodi di violenza e spaccio nella zona. A sorpresa, la Cina ha svalutato oggi lo yuan, la moneta cinese, nel tentativo di combattere la flessione dell'economia e favorire le esportazioni, una mossa che potrebbe essere ripetuta da altri paesi asiatici, ma che ha avuto subito riflessi negativi sui mercati europei, che hanno chiuso tutti in calo, Milano giù di oltre un punto. E allora, cari ascoltatori, di nuovo ben ritrovati. siamo con qua. Si può fare. Con Si può fare. E con ricordiamo anche i contatti, vai, la pagina Facebook. Magari qualcuno è lì adesso che quasi accendo il computer. No, non c'è bisogno. Guardo sul PC, faccio like. Giusto. Si può fare trattino Radio 24. Siamo su quasi Facebook. 5.000 per un programma del weekend che adesso è traslocato così in sostituzione, diciamo così, dei vacanzieri della Zanzara. Ma torneremo sabato e la domenica. E invece il nostro account di Twitter è @sipuofare24 e poi i nostri account personali sui quali potete scriverci. Il mio è @CarloGabardini e il mio Ale Maurizi. Andiamo con, riproviamo con Mario che ci chiama da Bologna. Prima era in galleria, forse adesso è uscito. Mario? Sì, sono uscito. Perfetto. Ottimo. Ho ascoltato con interesse. Vai. Scusa, ho chiamato prima quando ho sentito parlare quel signore che mi sembra si dia alla politica, un politico che parlava delle spiagge e dei vucumpra in spiaggia. Certo, come sì, no, responsabile era Giorgio Silli, responsabile dell'immigrazione di Forza Italia. Ecco, un politico e quindi dice delle cose che a me non piacciono come tanti politici perché trovo veramente molto banali. Questo signore mi sembra che abbia detto che per risolvere il problema bisogna mandare in spiaggia l'esercito. Sì, ora sì, io direi che è un po' forte qui, tutti quelli che non sanno cosa dire dicono agli altri invece io posso dire che in Liguria dove vado, nel Tiguglio, ci sono da sempre a fare le mie vacanze. Negli ultimi anni i vucumpra non ci sono più così in maniera pesante. Perché? Come perché mai? Gli operatori che gestiscono i bagni hanno fatto un accordo col sindaco del paese e loro lì diciamo allontanano gentilmente e non li fanno più. No, scusi, questa potrebbe essere anche una notizia buona per Si può fare. C'è un accordo che riguarda quale comune esattamente? È il comune di Sesto Levante. Io ho rilevato che i vucumpra stanno dentro nelle stradine interne, non è che sono scomparsi, ci sono, però non sono né più invasivi né ci sono i cinesi che vanno in giro a come fare hanno massaggi. Fatto diciamo, questo che non glielo so dire, io posso constatare di fatto il dato di fatto. Il dato di fatto che i vucumpra sono diminuiti moltissimo e quasi scomparsi. Poi io continuo a non capire. Quindi se il problema scusi un attimo, continuo a non capire lo chiedo anche a lei, se il problema è la lotta all'abusivismo, al commercio abusivo, oppure se la gente è infastidita dai vucumpra. Perché io per esempio personalmente frequento il mare, le spiagge e non penso che mi danno per niente fastidio. Però forse sono io che sono particolarmente tutte e due. Però lei ci segnala che a Sesto Levante avete trovato una serie. E poi non li chiamerei vucumpra, tra l'altro, perché voglio dire, l'abbiamo permesso al responsabile di Forza Italia, ma tendenzialmente insomma non sono vucumpra. E io vorrei anche ricordare che la maggior parte di quelli che vendono il cocco sulle spiagge sono italiani. Io quelli che ho sempre incontrato, vero, sono cocco bello spesso. Italiano, nessuno non richiede lo scontrino lì, non nessuno richiede lo scontrino lì. E nessuno ha mai avuto il problema di come mai il non fanno cocco, gli scontrini. Adesso del l'ultima cocco. Novità, ho visto gente che però fa le granite lungo la spiaggia, le granite lungo proprio sulla incontrarlo, meraviglioso. Massaggi dicono anche uno, tatuaggi, si può fare di tutto in spiaggia. Non toglieteci queste piccole cose che sono low cost, tra l'altro, perché con pochi euro uno mangia una fettina di cocco, si fa fare un massaggio e passa la giornata. Altrimenti mi devo andare per forza in un centro massaggio, chissà dove, a spendere di più. È anche una cosa. Adesso chiameranno dei massaggiatori dicendo che quelli non sono dei massaggi fatti fiscale, bene, non è persone che hanno studiato per fare i massaggi. Traffico. Si può fare. L'attualità anche d'estate. Intanto, cari ascoltatori che ci seguite dalla Riviera Ligure, se avete notizia del fatto che a Sesto Levante non ci sono più venditori ambulanti, abusivi, vucumpra, chiamateli come volete, come diceva Mario da Bologna, chiamateci, mandateci un messaggio, scriveteci, perché siamo curiosi di avere conferma di questa notizia. Ma con questa musica. Come sapete, è il momento di parlare. Insomma, ci sono questi numeri sul lavoro che ballano, contratti a tempo indeterminato, determinato. Renzi che esulta perché il Jobs Act dà i suoi effetti. Noi incontriamo qualcuno che ce l'ha fatta. Parliamo di una startup. Io direi che potremmo già dargli il premio della startup più fresca dell'estate. Diamo la buonasera a Massimo Bernardoni, cofondatore del progetto Airlight. Buonasera a lei e a tutti i suoi ascoltatori. Buonasera. Progetto Airlight che produce la vernice ecologica, ma soprattutto che rinfresca, una vernice anti-afa, così almeno è stata definita. Ci racconti di che si tratta? È un progetto che nasce un po' più lontano nel tempo. Sì. Innanzitutto abbiamo cercato di realizzare un prodotto che fosse completamente diverso da quelli già esistenti e non andare ad aggiungere qualcosa di già noto, soltanto migliorando leggermente le performance o abbassando un pochettino i costi di produzione. Stiamo parlando comunque di vernici, voi sì e no, cioè, sì. Nel senso che sono una multitecnologia, sono sì, varie tecnologie che adoperano la vernice, quindi la pittura, come suo contenitore. È un po' come dire: io ho un computer in cui la scatola di alluminio contiene la tecnologia del computer, nello stesso modo io ho la vernice che contiene le tecnologie che noi ci abbiamo inserito all'interno. Ecco, andiamo un po' a semplificare. Siamo hardware e software, giusto? Sì. Più o meno. Cioè, il prodotto finale comunque è una vernice. Assolutamente sì, lei si applica come una qualsiasi vernice. Con la penna lessa. Con la pennelletta, ecco, come vuole lei. Stiamo sul classico. E si applica ai muri delle abitazioni esattamente, su muri interni e su muri esterni. Abbiamo due prodotti, uno da interno e uno da esterno. Però avete trovato una formula che consente, questo diciamo il titolo, l'elemento di forza, che consente cosa? Di tenere più basse le temperature? Allora, praticamente in applicazione in esterno, il prodotto, noi abbiamo fatto vari test in tutto il mondo, riesce a battere fino a 28, 29, 30 gradi la temperatura superficiale. Cioè lei, quando ha una parete esposta al sole, sì, questa si scalda e arriva fino a 60, 65 gradi. Dipende dal tipo di prodotto, dal tipo di colore che... 65 se abiti in un forno però, no? Guardi, noi abbiamo rilevato fino a 72 gradi. Ho sbagliato io, allora chiedo scusa. Calcoli il sole tutto il giorno su una parete, il caldo poi si cumula, no? Parliamo di temperature superficiali, Certo. Applicando Airlight su questa superficie si riescono a battere dai 20 ai 25 gradi a temperatura. Però, ero rimasto al fatto che usando diciamo colori chiari e colori scuri, no? Questa cosa qua, cioè, no, indipendentemente dai colori, si veste di chiaro. A questo punto, cioè, voi invece siete in grado con questa vernice di abbattere la temperatura esterna di una parete di 20 gradi? Sì, assolutamente sì. Abbiamo una riflettanza che sarebbe l'indice che determina la capacità del prodotto di respingere, quindi di riflettere l'energia solare, soprattutto quella infrarossi che scalda, sì, del 90%. Però, complimenti. Ma siete gli unici al mondo che fanno una cosa del genere o ci stanno lavorando anche altri? Siete arrivati magari un po' prima? Ci sono anche altri prodotti, certo, che hanno questa caratteristica, più o meno, cioè più o meno che più, ma la caratteristica di Airlight è che contiene altre tecnologie al proprio interno, sì, che sono tutte nello stesso prodotto. E tra l'altro il prodotto è totalmente atossico, cioè è un prodotto in polvere che viene consegnato quindi al cliente in forma polverosa, il quale cliente ci mette poi l'acqua momento che deve utilizzarla, come una normale vernice da diluire. Ma mi scusi, forse faccio una domanda, anzi sicuramente sarà una domanda stupida la mia e chiedo scusa. Prego. Ma tutto questo sembra un toccasana straordinario per l'estate, ma d'inverno uno poi deve cambiare vernice, perché d'inverno uno invece ha piacere che ci sia più caldino all'interno. Diciamo che d'inverno non abbiamo le energie necessarie perché il prodotto funzioni, quindi si comporta come un prodotto neutro normale. Ma questa vostra idea, diciamo, siete già in grado di distribuirlo questo prodotto? Siete noi lo stiamo già distribuendo, noi siamo una società che distribuisce già in 3 continenti e da poco siamo entrati in Italia. Ecco, quindi dopo. Ma a proposito di Italia, diciamo la progettualità, la produzione la fate in Italia? Siete un'azienda a tutti gli effetti italiana. E avete avuto un bel contesto? Cioè avete trovato investitori, finanziatori? È andato tutto bene? Allora, noi stiamo concludendo, diciamo che in Italia ci siamo arrivati un po' per... è una strada strana, nel senso che ci hanno invitato a partecipare a una trasmissione televisiva qualche mese fa, e, proprio dove si trattava di investimenti, e per noi la trasmissione è andata molto molto bene, abbiamo superato le due diligence sia tecniche che commerciali, sì. E quindi ci apprestiamo a settembre a concludere l'investimento da parte del soggetto che era interessato. Beh, guardi, anche semplicemente qui a Radio 24 le dico che i messaggini sono: dove si compra? Veramente voglio, molto utile. Oppure questa domanda: ho una mansarda, la vernice si applica anche alle tegole? Si può applicare tegole tenendo presente che il colore potrebbe cambiare, non so se il colore della tegola è possibile replicarlo. Ma poi forse conviene invece dipingere l'interno della mansarda con la vostra allora, vernice. L'applicazione interno ha soprattutto come caratteristica quella di eliminare la totalità dei batteri e delle muffe sulle superfici e purificare l'aria delle stanze. Non so se voi sapete, ma l'aria all'interno delle abitazioni è molto più inquinata che quella all'esterno. Adesso apriremo anche un numero verde, un centralino, un filo diretto con gli ascoltatori che ne vogliono sapere di ogni su questa bellissima innovazione. Noi ci interessava comunque raccontare questa storia, ci dà un'iniezione di ottimismo che noi cerchiamo praticamente ogni sera con Si può fare. Grazie per essere stato con noi, in bocca al lupo. Grazie a voi. Grazie mille, Bernardone. Buona serata. Di Airlight, se siete curiosi andate su internet, trovate tutto. Arrivano un sacco di domande. Questa vernice si può essere utilizzata anche per le automobili, per esempio, chiedono. Perché in effetti... La gente è disperata adesso col caldo. È il caldo, e l'automobile è veramente un grande classico. Quando parcheggi la macchina, stai andato in spiaggia, poi torni e mi ricordo mia mamma saliva in macchina e diceva: che bel caldino. Faceva un caldo tipo che c'erano 96 gradi, noi stavamo morendo tutti. E lei diceva: c'è un bellissimo caldino. Andiamo con ancora un paio di ascoltatori per chiudere questa puntata. Gianluca dalla provincia di Roma, buonasera. Buonasera a tutti, complimenti per la radio. Grazie Gianluca. Io volevo fare due cose, ho da dire tante cose ma solo due. Sì. Io abito ad Anzio e qui ad Anzio abbiamo avuto l'ondata come tutta Italia di questa povera gente messa dentro le ville nuove, prese in affitto dentro alberghi a 3 stelle, messi lì e fa tutto bene. Però noi abbiamo ad Anzio delle realtà che un nostro concittadino ha preso 2 ville grandi, anni addietro ha fatto tutti i posti letto, ha messo gente a dormire, mo stanno senza acqua, senza corrente, e quello è il colmo dell'Italia, io penso. No, scusi un attimo, no, esatto. C'è un concittadino di Anzio che un nostro compaesano, furbo, perché all'epoca si faceva dare a letto, penso, bei soldini ogni posto letto, ha messo all'epoca... rumeni, bulghi, non erano europei. Cioè in regola, un accordo con il prefetto. Niente di regola. Ma da chi se li faceva dare questi soldi? Da loro? Da chi? Da questa povera gente che veniva anni addietro per posti di lavori quando l'Italia funzionava un po' meglio, e adesso stanno dentro lì, nessuno li può cacciare perché lui non c'ha più il controllo, senza acqua, senza corrente. Ci sono quindi gli si è ritorta contro. Brasiliani si è ritorta contro a questo signore qua che questo ha fatto. Ci voleva guadagnare, è rimasto fregato. Vabbè. E questa, scusi, è una situazione. Ci abbiamo la raccolta differenziata. Questi non sono censurati, cioè non c'hanno niente. No, però scusi, Gianluca, non vada di palo in frasca, non si capisce nulla. Questa villa ad Anzio crea parecchio disagio, parecchio degrado. Quante persone ci stanno dentro? Guardi, tra marocchini, bulgari, rumeni, dico saranno penso più di 100 persone alla fine. Alla faccia, sono 2 ville enormi, 100 persone. Sì. Ma sono sul lungomare? No, sono su un quartiere di Anzio chiamato Falaschi. E quindi diciamo è una zona che diciamo, è una zona abitata, ha subito un po' di degrado, cioè chi abita lì vicino si lamenta di questo. Un problema grandissimo che l'amministrazione non sta affrontando, tutti fanno finta di niente, abbiamo la Monnezio come a Napoli, guardi, è una provincia di Roma, insomma non può essere, cioè abbiamo le strade lì che le Monnezio ogni mese questi cumuli di monnezze come se non passasse a raccogliere nessuno, ma purtroppo abbiamo la raccolta differenziata e non sanno più che fare questi poi. In bocca al lupo Gianluca. Grazie, per Anzio, grazie mille. Tutti gentilissimi, complimenti per la radio trasmissione. Ciao, grazie mille, buona serata. Ciao. Andiamo con chi andiamo? Nicola da Padova. Buonasera. Prego. Io intervengo invece per il discorso dell'inceneritore, della raccolta differenziata. Sì, prego. Io sono assolutamente concorde, esposo il tecnico che è intervenuto. Faccio parte anche di un gruppo di lavoro che sta studiando un po' le eccellenze del Veneto, sì, e anche le problematiche del Veneto. E confermando i dati della raccolta differenziata, che generalmente è molto alta, in alcuni comuni addirittura della cinta padovana raggiunge l'80%, e vorrei fare solamente una piccola considerazione. Noi abbiamo sempre parlato di raccolta differenziata, ma non abbiamo mai analizzato il fatto del riciclo. Questo è un problema. Il fatto del riciclo. Certo. Perché se la raccolta differenziata è fatta con il porta a porta, come è stato spiegato, la percentuale di purezza permette non anche un riciclo. Il problema nella nostra zona è che la raccolta differenziata invece è una raccolta abbastanza sporca. Questo ha determinato innanzitutto il crescere dell'inceneritore di Padova, che ha già due linee attive, e oltretutto, nonostante questo inceneritore non abbia il materiale da bruciare, ha portato addirittura adesso a istituire una terza linea di inceneritore, sempre connessa alle prime due, che invece avrà bisogno di merce che arriverà dagli altri territori. Vi dico anche una cosa in più di questo decreto Sblocca Italia: è stata data la possibilità ai cementifici di utilizzare i rifiuti solidi come materiale combustibile per raggiungere temperature che poi permettano oltretutto la produzione del cemento. Questo da noi, sempre nella zona padovana, a Monselice, sta creando un grandissimo problema anche ambientale. Stanno aumentando le percentuali di tumori. Abbiamo richiesto noi anche ai nostri... Devo chiudere Nicola, però è chiaro che l'argomento è interessante. Tra l'altro, è anche gigantesco. Ogni località, poi ogni territorio ha le sue specifiche su questo, quindi vi prometto, anzi da ci domani richiami, sera... Ci richiami, sì, sì, ne riparliamo. Siamo in chiusura. Ne riparliamo sicuramente domani di tutto questo, inceneritori 80024. Perché do il numero verde adesso? Sono proprio bollito. Vabbè. Dopo due ore e mezza di programma sono ufficialmente bollito. Perché magari ti chiama qualcuno per la serata, Ale. Sì, no, sto già pensando che domani non ci sei e ti dovrò venire a cercare in diretta telefonica da dove, non lo so, la tua estate. Ci sentiamo domani, cari ascoltatori. Un ringraziamento a Leonardo Siligato, sotto scena, grazie a Gala in redazione, Paolo Corleone in regia. Ciao Andrea Piana. Andrea Piana, che però è in vacanza. Quindi, esatto, però lo ringraziamo lo stesso. Sempre l'autore di questo programma. Ciao a tutti, da Alessio Maurizio. E da Carlo Gabardini, buona serata. Ciao, si può fare.